dormo io. Hai sentito che io non dormo? No, no. Oramai non ne ho bisogno più di riposare, sono già a riposo. Sono in fede sino al 20 novembre oggi e poi basta. E si conferma, forse quest'anno riusciamo a fare un Natale a casa, anziché al lavoro. Grazie, grazie. E Naggio lui, un altro mi Naggio di comparare. Naggio lui, non c'è problema, oggi, che problema c'è? Sai, io queste cose non le guardo. Sali, tanto guarda, è spento da una parte, anzi da una parte no, è in linea. Agli altri, ma sono sempre spenti. E dovrò far girare il 27, quelli 27 non è che vanno tanto bene, no? Bisognerebbe farli girare in banda amatoriale, allora sì. Bello per la 27, ti devi prendere uno di questi, meglio per te. Raggiunto 100.000 volte, ne ho dato uno a 200 euro, uguale a questo che sto trasmettendo io, che vale il doppio, solo perché aveva un difettuccio nell'accensione, capito? Nuovo ripacca, è funzionante, un be, più di ghiaccio di vattene via. Un 440, TS440, uguale a questo. E io non ci ho pensato a te io. C'erano un sacco di agganci, chi lo voleva a destra, chi voleva a sinistra, non si è visto mai nessuno. Poi è venuto il Capri 2 e se l'ha comprato, senza stare lì a battere ciglia. Alle 8:30 è venuto di sera e se l'ha portato via. Io ho letto il radio, nessuno era disponibile, allora va bene così. No, non l'avrei potuto tenere anch'io, ma non mi interessa più fare i doppioni, capito? Io c'ho la linea del 4:30, la linea del 4:40, uno con l'85, uno con 60, e per me come 27 è più che sufficiente, capito? Poi il resto è tutta radio I come Iaesu. E vabbè, se ti interessa c'è un bel buzzer Galaxy nuovo dentro la scatola, usato pochissimo, che c'è anche un bel poppo di watt, c'ha 25 watt in AM e quasi 50 in banda laterale, sempre allo stesso prezzo, con l'MB più 5, ma nuovo è fiammante oggi, fiammante, capito? E il prezzo è anche basso, perché li stanno andando anche a 250 col microfono normale. Questo lo dà 200 euro con l'MB più 5, nuovo lo stesso, già testato, già pronto a modulare, ma una bellissima radio, è perfetta veramente, guarda. Io ce l'ho qua, ogni tanto l'accendo, la uso, ma ti dico che è nuovissima di pacca, nuova e funzionante molto molto bene. E oggi per te quello è più che ottimo, capito? Perché a 220 non hai bisogno di lineare, c'ha 25 watt e sono tanti per la 27. Poi il banda laterale è perfetto, l'ho provato io, spiepine ha intorno ai 40 modulati in banda laterale, una bella bestiolina. Non so se sono stati fatti i lavori, ma non credo, perché di solito sono così con la radio, capito? Però è molto bella, a me piace, è che è un barragione, è molto grande, capito? È molto grande, io posto da tenere baracchini così di quei livelli non ne ho, perché sono tutte da radio amatoriali e mi viene male, capito? Se non me l'avrei tenuta. Di profondità, non lo so, comunque è un bel grande, di lunghezza è un bel grande, lunghezza e larghezza non tanto, ma di lunghezza è grande, ma è bella, nuova, è veramente molto molto bella e funzionante al 100%, ce n'è che lampeggia il frequenzimetro, questo è perfetto, perfetta veramente, se te lo dico io vai tranquillo perché l'ho provata, capito? Ah, 60 centimetri, molto meno. Oggi, se tu me lo dicevi io te l'avrei messo da parte, intanto fretta questo non ne aveva, perché è uno che si è disfatto di tutta la roba, lavora fuori, ha dato tutto a me perché si fida, le ho già fatto altre volte, capito? Quindi non c'è problema. Non c'è problema, però faccio un pensino, perché per me è il miglior baracchino, lascia perdere 4,40, quelli sono HF, ok? Però il miglior baracchino per la 27 per me, per come funziona, per come è impostato, per tutto quello che ha, è il Galaxy Saturn Echo da base, è il miglior baracchino per la 27, non ce n'è altri, capito? È completo, un bellissimo baracchino. Ma dove sei? Ti sento un po' forte, un po' basso, ma dove sei? Sì, sì. frequenzimetro e canale, cioè o meglio dire il canale e poi c'è il frequenzimetro a fianco che ti segna tutto, poi c'è il rosmetro, il wattmetro, roba seria, strumenti belli, grandi, visibili, ma la radio poi è nuova, se la vedi guarda ti mando una foto, è nuova, mai usatami. Pensaci, non c'è un problema, già è qua, intanto c'ho anche altra roba sua, strumenti, microfono, balle varie, ma roba materiale, capito? Questa è la roba che aveva in più. Pensaci, ti posso dire che è bello, nuovo e funzionante, perché io l'ho usato e lo uso, anche ieri stavo usando quello, capito? Non c'è un problema, a volte lo faccio andare un po'. Va bene, dai, ma dove stai andando, a lavorare o stai uscendo? L'MB più 5 è già testato, già collegato, pronto a funzionare, devi solo attaccare antenna e la spina 2B, è pronto, ma bella modulazione anche, bella forte. Ciao OJ, quando vuoi chiamami al telefono, mandami un messaggio, vieni e lo vedi, capito, così ti rendi conto. Ciao, buon lavoro, alle prossime OJ. Ciao. Natalino, oh Natalino, tra un po' la tua festa, e beh Lucky, e noi Zese, non ho capito niente, fortuna sei basso del radio, Tasamau. A casa, ho capito, no, il segnale è buono, fortuna, Santiago 9 quasi, però la radio è molto bassa, devi aumentare la radio, se vado anch'io va sempre un problema della radio. Stai facendo i collegamenti al microfono? E che schema vuoi? Che baracchino stai usando? Tratto baracchini, non fortuna, direi da una lì, non ne ho io baracchini, io ce l'ho la 48 dentro l'armadio, che è quello omologato, c'ha il microfono suo normale, però non l'ho mai toccato, capito? Ma non si viene a nulla c'è microfono, ma cosa stai usando? Che microfono stai usando lì? Ah, quello tipo M300, quello lì. Se li metti il microfono normale a quella radio esce meglio di come stai uscendo adesso, fortuna, secondo me. Oppure se decidi di metterlo a casa, le metti il microfono a tavolo. Un MB più 4, un MB più 5, ce li ha fusato quel cane, manco 50 euro. Però qualità prezzo funzionano bene, capito? Tutte le parole ti mangi, fortuna, no? Giù compreso un tag. O mettilo al massimo, o buca il nero che secco, non si può bucare, non se ne può bucare l'ecco. No, è peggio, fortuna. Evidentemente non è compatibile con quel baracchino, quel microfono. Non ti capisco, essendo basso. Lampazio, lo schema della 48 a Gigi Vulcano, a memoria lo sa, per i microfoni a Gigi Vulcano deve chiedere. prendermi in piedi con quel baracchino, vai. Va bene, se coincidi a dopo. Ciao, rimango in ascolto anch'io. Ciao. Ehi, dimmi Fortuna. Ah, due volte è meglio, 100.000 volte è meglio. Possibilità di girarlo, cioè di metterlo normale. Ti dissi, la colpa è degli impianti loro. vabbè. Aspetta che faccio una prova, vediamo, 4 watt. No, sempre 4, dai. Non aumentano. Però deve stare ritirando la roba stesa, perché potrebbe piovere. Anche se qua fa tutto, fa scena, tutto nuvolato e non piove mai. Ieri sera ho notato che lo smitter non saliva come dovrebbe. Attacco l'MFG e ho visto le stazionarie a 1,5, forse era l'umidità della notte. Ma che strano. Poi c'è di giorno, no, 1,1. E vabbè, cose che capitano, ma niente di che comunque, niente di preoccupante. Magari di notte ha piovuto e così, sai, meno male la pioggia quando è sulla superficie dell'antenna è qualcosa un po' di altera. Scappa. Capita, già le 5 sono fatte, incredibile. 5 passate, 5 e 10. Va bene, aspettiamo Claudio. Che altri c'è qua? Tonendo ci sei? Pomponio ci sei? Sarà il circo, sarà. No, no, a quest'ora no, apre le 6:30, apre le 6:30, ma beh. Ci siamo sentiti il PMR alle? Potevano essere le 1:30, no, le 2:30, le 3, una cosa del genere. PMR. Pensa che dalla camera mia ho trovato un punto particolare a fianco al letto dove prende, parlo con lui e mi sente perfettamente. Dalla camera mia, al chiuso. Addirittura, vabbè. Vuol dire che c'è qualche guardo come ci abbiamo io e tu, io ti sento da dentro casa tua. E chi è l'altro? Con chi stai parlando? Ragione, chi è? Natalino. Ah, Natalino, come fa, l'ho chiamato, non mi ha risposto. Ciao Natalino. E io non mi risponde, sempre in affaratto, sempre facendo stretto. Non c'ero quando mi hai chiamato, vuol dire. Io sono entrato quando ho sentito a Marcolino. Sicuramente no, non c'eri, vabbè. Ok, e quindi è così, dai, va bene. Bene, mi ascolti, sì Marco, sono come ieri. Sì, già ti ascolto sempre bene. Ho tutto pulito, questo 85, ho dato una bella pulitina, gli ho messo la spugnetta, mi ha dato Luca. Oh, stamattina ho portato il televisore a Luca. Oh Marco, il televisore a Luca, cosa che ho portato una volta ad un tizio e se l'ha tenuto una settimana, stesso problema, non accendeva. L'ho portato a Luca stamattina alle 10, siamo andati a prenderci un caffè, all'una mi ha chiamato di andare a prendere la televisione, è attaccata, si vede meglio di prima. Capita, allora era una cosa da poco, te l'ha detto cos'era? Dei condensatori erano, ma tu sai dove metterci le mani? Lui lo sa dove metterci le mani. Condensatori del trasformatore di alimentazione, capito? Li ha cambiati, mi ha restituito la televisione ed è meglio di prima, è un campione, non ce n'è per nessuno. Magari ce lo dà via un tecnico, dici col camice, diceva non ne vale la pena, il costo vale più del televisore, capito? Ottimo per Luca. È un campione, non ce n'è per nessuno. Preferito darle a lui e darle a chi fa veramente quel lavoro, non riesco a capire. Già uguale, preciso, identico al problema che aveva già avuto, mi ha detto mia moglie, aveva. C'erano i suoi, stesso problema, se l'ha portato via Ennas, si attenta a Magheta, non so come già tutto l'ha fatto pagare, ma stesso problema, vabbè da Luca, vedi, è un campione, è onestissimo, merita veramente Luca, se avete cose da dare, datele, perché veramente c'è un impegno in questo campo che è una cosa allucinante, mica aggiustare queste cose e soprattutto i telefonini, non le buccia di gioco, eh. Lo so. Meno male, dai. Visto che era un ricordo, hai detto, te lo puoi tenere altro tempo, dai. È perfetto. organizzato, tutto pulito, tutto a posto, è perfetto, guarda, perfetto. Sente anche quell'odore dello spray che gli ha passato quando lo pulisci, no? All'interno. Perfetto, come prima, come prima. E beh, certo, me lo tengo. A comprare me lo ricompro nuovo. Però questo me lo tengo, me lo metto qua in sala radio, capito? Ma almeno è un ricordo che ho ed è funzionante. Ma anche se non si poteva riparare, l'avrei tenuto lo stesso, non l'avrei buttato. E beh, Tatarì, cosa ci racconti? Io cosa ti devo raccontare? So che no, che musato. No, io manco riposando sto, perché mi alle 3:30 c'era studio a casa, mi ha chiamato, sono venuti a vedere, a rompere le palle, poi sempre in orario, ho detto no, non puoi venire più tardi, no, sono qua di passaggio, sto salendo adesso, e è giunto avanti, poi la Tari Tecnocasa, tutta la gente di Sassa c'erano a casa, il primo si abbiglia. Adesso stasera ci guardiamo la Juventus, ieri mi ho guardato l'Inter, mi ha sofferto un po' Verona, è una bella squadra e merita di essere prima della Juve, c'è un bel gioco, merita. Stasera ci guardiamo la Juventus contro il Coso, lo Sporting in Lisbona, mamma mia come sto, sarei da via. Chiamare anche Cile 3 erano più o meno, ho chiamato anche là sulla monitor a vedere se c'eri, ma non c'eri. No, evidentemente quando sono sceso giù, con rispetto, quando sono sceso giù sono sceso verso le qualcosa a portare a Filippo, perché sennò questo aveva per 3:15, 3:20, e sennò non combinano niente, capito? Sta addosso, ha rotto le scatole, l'ho portato giù e a casa gliel'ha fatta vedere mia moglie. E poi sono salito, infatti, e allora sono già andati via. Ho acceso tutto. Mia moglie che entra nei 9, però questa non è in vendita la stanza, questa ha fatto una porta blindata e me la tengo. Dice la rovetta dalla finestra. Eia. Magari uno ti chiede, voglio la casa ma voglio tutte le radio che ci sono e rimani senza niente. Guarda, tutti quelli che sono venuti mi sono passati un bel da quando ero in vendita. Tutti, che cos'è? È roba da mangiare, non la vedi, cos'è? E la gente non capisce niente, credono che le radio ce l'abbia solo la polizia e i carabinieri, capito? Tutti i mezzi di soccorso. Sono troppo legati ai cellulari. Adesso se sei al telefono in macchina ti fanno la multa anche i motociclisti in borghese, non solo più quelli proprio in divisa, anche in borghese, magari ti affianco la moto, tu non lo sai, se guardo il cellulare all'orecchio, tac, e ti fanno la multa. Le stanno studiando tutte per sciocchiare i ciotti. Marco, è una cosa giusta, è una cosa giusta. A me chi me lo dice che quello che c'è entrato dentro il bar non era col telefono in mano e si è distratto? Ah, chi me lo dice? Nessuno. Perché è stato negativo all'alcotest, è stato negativo alle droghe, eccetera. Negativo su tutto qui. Una macchina di genere ti distrai tu in un pezzo rettilineo così. C'era il telefono, non è caduto il telefono, si è inchinato in terra e si è entrato dentro il bar. Non si usano i telefoni camminando in macchina, non si usano, fanno bene. Il dottor Serra, il comandante di Sassari, ha fatto bene a fare una cosa del genere, capito? Così tu lo riconosci, ti pone la paletta, i pirani, la moto, e attenzione che sono moto civili, non sono moto del comando, sono moto civili, capito? Affiancani e ti sagameggiani e fanno bene. Ma lo sai quanti ne vedo io col cellulare all'orecchio? Un bel. Ma io mi chiedo come facciano a cambiare con una mano, a tenere il volante con una mano. È un casino. Non è assolutamente una cosa di sicurezza. E beh, il nostro conoscente comune andava di notte lì a Trunco, no? andava di notte guidando col buio e col cellulare in mano chattando, un occhio, uno sguardo al cellulare e uno sguardo alla strada, e di notte fonda col buio. Ma quando mai? Peggio per lui, il modello è andata sempre bene, capito? Ma poi a dire che non ci sono le cose utili, ci sono i Bluetooth, il telefono lo appoggi, oggi le macchine nuove hanno tutti i Bluetooth, quindi viva voce. Appoggi il telefono, quando squilla, schiacci il Bluetooth nell'orecchio, sì, pronto, chi è? E tu stai camminando e parlando. Io una riga ancora non capivo, perché non lo sapevo. Qui tu al semaforo, a fianco a me, fa vedere l'azzurro, ho detto a mia moglie, come da chi? Il semaforo. Ah, non è uno che fa vedere l'azzurro. Poi, dopo un po', ho capito che aveva Bluetooth all'orecchio e stava parlando al telefono. Ci sono tante cose che sono meno rischiose di camminare col telefono in mano e ammazzare la gente, perché la statistica, proprio da poco, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha detto che a statistiche proprio loro, sia loro che della stradale, il 95% degli incidenti mortali sono stati causati dai telefonini. Minchia. Anche al baracchino è così. Cioè, quando ho moduli devi stare attento. Prima di tutto non fare incidenti, no? Infatti io rispondo solo in condizioni di sicurezza. Quando devo fare curve, manovre, dico, devo mollare, sto facendo una curva, un coso, capito? No, se no è proprio pericoloso, E ho visto un be. Eppure esistono Bluetooth viva voce, no? Cioè, esistono viva voce da macchina, di tutte le marche, di tutti i costi. Esistono gli auricolari, no? Sapere l'auricolare, sei a mani libere, puoi guidare, cambiare la marcia. La gente non lo so cosa c'ha. Non li usa. Guarda, se esistesse un auricolare Bluetooth per il baracchino lo userei, lo sai. Scusa Marconi, che sono al telefono mia figlia, ma... Ehi, Natalino, cosa ne dici tu? Infatti, io ce l'ho il Bluetooth nella macchina, non l'hai visto come lì? No, nella macchina tua no, non ce l'ho presente, Natalino. Io certe volte magari mi chiamano, o non rispondo direttamente, casomai mi accosto, mi fermo un attimo, allora li chiamo. Oppure rispondo in fretta e dico, sto guidando, non posso parlare, ciao. Capito? E mi faccio o richiamare o richiamo io. No. Poi a parte la sicurezza ti castigano, ti fanno una bella multa. Ehi, bisogna stare attenti. Sì, secondo me magari quello stava, si è visto un attimo, o gli è caduto il cellulare, ha sbandato ed è finito dentro il bar. E quello è gravissimo, non si sa nemmeno se si salva, quello è investito. Chi è? Io. Antonello, tu sei? Io. Ma come stai uscendo? Sembri il Papa, sempre. Forse c'è meglio. E adesso? Adesso no, però sei saturo. Saturo? Con un batto. Sto pilotando. Guarda un po'. Così Antonello, ma che linea retto è, scusa? Sto usando il coso, lo Speed CT con il 4000, lo sto pilotando con un batto solo, perché sto provando il finale di Fusaro, io vorrei più 4 vecchie. Comunque quel difetto di prima non lo faceva, quello che piano piano se ne scendeva di watt, rimane stabile un watt dell'apparecchio, quindi devo fargli solo la regolazione. Ho capito. Ehi, sai cosa, certi lineari saturano, non c'è nulla a fare. Soprattutto quelli con quei finali a croce, quei finali maledetti, MRF tipo 455. Come si chiama, il B150, e quello è sempre un po' saturato, magari poco ma saturato. Invece quelli a MOSFET come quello che ho io è un bijou, per cui io se dovessi ricomprarlo lo prenderei a MOSFET. anche modello più grande, però MOSFET. Guarda, c'è l'RM, RM Italy, KL503, che è un bijou, me lo sto cenando la notte. Ciao, per cosa me ne faccio? Fino a due sogna. Sono liscio, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, non basta solo. Ma come mai c'è così forte di segnale? C'è 9.25 a Torino. E ho fatto l'uscita già. Non l'ho toccato, capito? Voglio controllare, ma è di toccare le regolazioni, voglio i finali sui originali, capito? Insomma, questo è quello di 19.69 di Fusaro. Ne ho trovato uno, funzionante. E quindi mi ho messo quello. E sto uscendo con un watt solo. Ma guarda che 1969 di Fusaro credo siano fasulli, non sono veri. Ci deve essere scritto Mitsubishi. Guarda che io ho quel portatile col 1969 originale. Se riesco a ritrovarlo, perché non mi ricordo dove l'ho messo, se lo ritrovo te lo do, ti smonti il finale, che era buono, e te lo usi, capito? Ma chi è? Io sono buono. Ciao, ciao. No, mi devo dare i conti, i finali dell'8001, Mario. Devi attaccare, hai capito, è importante. Adesso, domani di telefono, dico di dammi l'apparecchio e li sta qui dall'8001. C'è l'8001, ne ha due, 1969, finita, e c'è il 2206. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Anto, buonasera anche a te, mi sono entrato un attimino che mi ha chiamato mia figlia. Ah, due ne ha finali l'8001? Sì, l'8001 ne ha due di finali, c'ha due di 19.69 e un 21.66. Ah, va, c'è una bella bestiolina allora, già va bene quella radio, ha sempre funzionato bene. Va bene. Tatalino, riprendi. Mamma mia, come sto? Sto facendo cosa? Saluto. Hai visto, ci sei riuscito a mettere il sesto? Sporco era, no? La Madonna. Come si è staccato così? Oh, vabbè, già si può staccare. Io non mi ricordo avevo smontato quello, perché tra l'altro l'avevo anche prestato. Come ho prestato questi. Questo è l'85 lo stesso. Vabbè, mi avevano tornato buone condizioni, però c'era sempre qualcosa. No, io il mio l'ho aperto, dentro era sporco, la verità, c'era polvere, i contatti non erano ben lucidi come devono essere, tutto pulito, la trilina, adesso è perfetto. Va bene, ciao Valeria, buonasera, ben sentito. C'è Natalino che è qui lì che sta facendo cosa, ti mando avanti Marco e poi c'è Antonello motopompa, vai Marco. Ehi, ciao Valerio, ben sentito, ben entrato. Beh, sono contento di essere riuscito a farlo funzionare, dai. Ma secondo me la mano ha messo Claudio, mi si è dimenticato di mettere le viti. Nella mazza che te ne vai, a me tocco il microfono. Ciao Valerio, mi senti? Sto scendo con un watt e mezzo, pronto sotto. Più con le 4.000. Allora, adesso attacco, Adesso ci ho mi attaccato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se no non si è no, 30, 40, 40, 40, 50. Vale, sentito lei Antonello. Dimmi se mi ascolti, 1, 2, sorpresa, batto le gimbe. Murra. Aspetta, adesso non mi senti per niente, dovrei arrivarti 3 o 4. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi senti? Sì, va bene, con un 4 e mezzo va bene. Meglio di nulla. Dava, non devi dire niente, che sta andando bene il finale, per il momento, però non si è incendiato, sto aspettando che si incendi, intanto quello di Fusaro. Antone, ma lo speedy CTE, non mi ricordo che apparato è, che linea è? 100 watt, valvola con una valvola sola e c'ha due manofole, cioè i 100 watt, capito? È vecchiotto, della CTE. A valvole. E come mai satura? Non dovrebbe saturare, no? Non dovrebbe saturare, però satura. No, forse magari perché sto pilotando un watt, cosa ne so. C'è un watt e mezzo, evidentemente è troppo poco. Capito? Un secondo, devo fare una chiamata urgente, un minuto solo che prendo subito. Vai, va bene. Sì, VHK, sistema, sistema, allora, no, si è spostato un attimo. Va bene, poco fa l'abbia, ma non ancora per la terra, invece è perfetta, sta andando bene, sta andando. Ci sono i cosi, Marco, su canale 1, stanno lavorando al circo, ti sento parlare, sono scalati qua, tutti entrambi, uno e l'altro, stanno facendo entrare le giraffe. Ma tu cosa senti, un radiomicrofono o PMR per comunicare tra di loro? No, no, PMR per comunicare tra di loro, sento. Sì. E poi c'è anche la voce continentale, tanto non so l'altro. C'è destra e anche uno di Cazzetto. Eia, entra tu. Oh, la giraffa, fatela uscire, fatela scappare dal circo. Ehi, parlato, lo faccio sentire. Intanto parlano. Senti la voce in gentile. Come spazzolato, stasera sentivo questi qui fuori dallo scala. Io perché ti sei mosso? Come? Dice, prova i microfoni. Prova il microfono tuo, no? Prova anche l'altro, dato che ci sei. Quindi quando attacco l'eco c'ho la voce del papà, c'ho l'eco del quattro lì. Così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Ah, fratelli e sorelle, buonasera. Aspetta. Cari fratelli e sorelle, buonasera. No, quello è russo, quello lì mette la Voitila parlando così, quello parla un po' ispanico, no? C'ha l'accento spagnolo. Adesso fa la Voitila, l'altro non lo so fare. Attento Spagna, ascolti Italia. Cucu, cucu, cucu, cazzo, stabile. Un batte il betto, da lì non si può fare. Due sono le cose, lo devo toccare per forza il clima di regolazione, però non lo voglio toccare, perché se no mi sbaglia tutto, cioè, quando ci metto il finale poi originale, cazzo mi sembra regolare di nuovo l'alimentazione del finale, quindi questo va alimentato diversamente. Mi ha lasciato il 21.66 e ho cambiato solo il 19.69. È stabile. Quanti amico di quel quando parlavo piano piano andava e scendeva. Da 5 volte piano piano cominciava. 6, 5, 3 e bolliva, sembrava che faceva l'arrosto. Sì. Che peccato che non lo facciano più il BV131, poi c'era il BV135 con due valvole e non li fanno più, peccato. Guarda che ci dà cose il BV131, ne ha due, ci sono cambiate con le sattole e basta, con 20 euro di spesa mi sembra, 10 o 15 o 20 euro di spesa mi pare tenesci. Ne avete 4 condensatori, la metà di quelli che ci sono originali, figurati più sono. E basta, e funziona. C'è via Gigi Vulcano, ha detto che non li vuole aggiustare, li vuole lasciare così come sono. Oh, perché non gli interessa più, dai. Vabbè, io parlavo di nuovo, nuovo. C'era il 135, era carino, era più lungo del 131 e due valvole. Vabbè, comunque transistor MOSFET vanno bene, sono puliti in uscita, basta raffreddarli, i minerali ti vanno a vento, le vanno perché bene. Chi è che fa casino in strada? Qua è un manicomio sta via. Io c'ho un BV132. 132? Ma quello con due valvole? Yes, tipo lo Spiria, un pochino più grandetto, ha due valvole, funziona molto meglio del BV131, c'è anche il BV131. E stamattina ho aperto l'armadio per mettere a posto, oggi mi c'è bendeggio, me ne è caduto tutto sopra. Oh, cosa hanno ceduto i mattarelli? Quei cosi che avevi messo per puntellare? Uno si deve essere spostato, si è tutto inclinato, oggi mi è caduto tutto sopra, che... Per carità, devo mettere a posto perché c'è un bel roba. C'ho questi lineari, nuove, microfoni, radio, VHF, VHF veicolari, di tutto, mamma mia, come sto. regala, regala tutto. E allora, a chi mi hanno regalato le roba? Lascia perdere, lasciami. Oggi volevo fare quel microfono, ho trovato l'80 per fartelo sentire, invece non ho fatto in tempo perché sono andato mattina correndo a destra e a sinistra, prima ero patronato, poi ero qui, poi ero là, poi appuntamenti per la casa. Ehi, però se fosse tutti i giorni così sai come passa la giornata, Marco. Eia. Eia, eia. Poi, vabbè, Antonello... Antonio, volevo dire che ho visto da Brickoman quel giunto di cui abbiamo parlato poc'anzi, quel giunto lì, palo da orizzontale a verticale e viceversa, ma è molto molto bello, costa una miseria. Dipende, il giunto ti prendi tubo e palo, capito, il palo TV e sei a posto, e poi ci fili l'altra la sopra. E vai bene, a voi ce n'è anche per i pollici. Io ho un tubo da 1,20 m, tubo per parabola, però non so se con 1,20 m riesce a uscire dal muretto del palazzo. Devo fare le prove, devo fare le prove, dai, casomai già ne prendo uno da 2 m. E se non ne prendi due da 2 m e già è più tranquillo e non hai nessun problema. Mi gli spagnoli, mi fammi una spagnoletta. Abba, che segnale. Il Santiago 9 sta arrivando qua. Io non posso manco usare il lineare, anche se volessi provare a chiamare. Ma ho già di provare, lascia perdere. Ma ho già di provare, lascia stare, già va bene così. Sono 10 watt io. Ma che ne so, se me lo vede, io, mamma mia, c'è Juventus, sta a zero. Quando gioca la Juve? Sta a zero, sta a zero. Sporting Lisbona, Juventus, ma chissà che bravo voti. Ovviamente in coso. Quindi, capitato, il giunto va bene, ce n'è uno anche regolabile, ma non serve, quello deve solo... tenere bene un palo e buco, però a 3,40 va più che bene, che poi mi faccio tutta questa roba, quanto crede che ci andrò io lì a farmi 3 piani di scale, anzi 4 piani di scale, non lo userò mai, mi vedrai, vedrai. Sì, vabbè, vedrai, ci andrai lì, magari c'è anche più caldo, figurati. Ho detto basta che fai quella domanda là, ti fai in piatto stabile lì e sei tranquillo, me. A casa dove sei adesso puoi andare tranquillamente anche a mangiare. Poi vedi anche lì è, anzi lì addirittura è nel sottopiano, nel primo sottopiano, e quindi ci vorrebbero la stessa roba di 50 metri in capo, te le immagini? 50 metri in capo, è una disgrazia abitare sotto, è bello abitare con ascensore e piani alti, con ascensore e piani alti, allora ti puoi sbizzarrire a mettere antenna ricevitore, un bel discone, quella della Sirio che riceve dai 25 ai 1.300, anche il baracchino riceve. Quella è veramente bella come discone, non il solito discone quello alto 70 cm, quello è una bella bestia, c'è uno stilo centrale caricato proprio per le frequenze basse ed è alto 1 m, ma mi pare sia 1,70 m in tutto, tra radiale stilo verticale 1,70 m di discone, è una bella bestia quella. Beh, già vende il discone, non è che non venda. Una volta li usavano per i telefoni di cordless e quel tipo di antenne. Figurati, mi sono una banda abbastanza larga. Caffa, avanti qua. Sì, le antenne sono tutte buone quando funzionano. Che poi Antoneggio, lo sai che ormai da ascoltare non c'è più niente al di fuori dei radioattori. E per ascoltare i radioattori basta una X30. In realtà VU una X30 o non è il 50, ma la 30 è più corta, capito? Ingombra meno. Sì, ce l'ha già il caso, mi viene che lo chiedo quando vuole stare qua. Ma dove viene a sistemare la porta che è discesa da ieri. Quindi, io dopo lo chiedo, se la fa fuori, con l'antenna, faccio sapere quanto ne vuole. Lui diceva, è nuova nuova, ci va in garage da padre, c'è meglio apparecchi, ci sta stato diretto, TTT. Antonetti, sento basso di radio, non è stato pericoloso, dici, oppure devo alzare un bel volume. Basso di radio? Sei sicuro? Ora. No, e sei tu che parli piano, dai, stricciati le palle, tira fuori la voce, dai. Ah, ero io che parlavo distante, adesso meglio va. Aspetta, la batteria devo cambiare, il microfono, cancella da zero. Eia. Ah, già l'hai compresa, sì. Caro Valerio. Ma lo sai che con questa modulazione c'è Bri Giuseppe? Io appena ho sentito il segnale forte, 8.5 o quant'è, credevo fosse Giuseppe che avesse messo a posto roba, antenna, invece eri tu. Beh, certo Claudio, con lo stesso microfono è tutta un'altra solfa, quello è indiscutibile, ma io francamente ti preferisco col baracchino, con l'Alan 48, bello. Il segnale, fammelo vedere, 8.5. Eia, come si suol dire, solo Claudio si può permettere di usare un MC85, molto più forte, più squillante, toni più acuti, Santiago 9 modulato. E di cosa? Non ho capito, il 140 che cosa? Quanti watt darà? Quello tuo se lo tiri, se lo metti, passa anche i 100. Beh, è normale che va in saturazione, devi stare nella media, dai. Se ne dà 100, ne dai 80 e non va in saturazione, però sono radio che spingono. La mia ad esempio, posso dare la portante sino a 100 watt pieni e va in picco positivo, modulati sino a 120, però è un po' diversa, ma anche quella volendo si può tirare, non è un problema. Vabbè, ma lui gli arrivi 8.5 col 140, a me col 140 mi arrivi 9.5, con questo mi arrivi 9.10, con picchi a 9.15, ma c'è il doppio della potenza. Marco, guarda adesso, ho cambiato qualcosa? E adesso sei tu, dai. C'è la macchina scarica per forza che mi senti vessato. Già è vero, c'ha pure ragione. No, ma eri tu che stavi parlando piano. Stavi parlando lontano o piano. Ti ho detto, quando devi modulare forte, strizzati le palle, vedrai che già ti esce la voce. No, la macchina scarica. Anzi, ho messo quella ricaricabile, già va bene. Però stacca sti lineari, perché sti lineari in città? Sei 9.25 sei lì. Beh, sto pilotando con un watt, ma ricordati quante watt c'ho secondo te? Ce n'è una trentina, non di più. Ehi, ma perché usare lineare in città se siamo uno attaccato all'altro? La Valerio se non mi sente, Valerio. Valerio, mi ascolti? E ho anche tu. Adesso stacco, aspetta, se dove scendere a 5. Ecco qua, staccato, 5. Allora, già lo lascio attacco. Quando parlo con te già attacco, quando parlo con Sassa vi stacco. Già attacca. Ah, lasciavo te attaccato, non so di una frutti. Sto pilotando con un vato intanto. Sto per farlo funzionare un po' il 4000 AM, perché l'apparecchio è tempo fermo, peraltro. Questo che sta andando bene, sembra. No, va benissimo la grande, no. Non ce n'è problema. Quanti watt dà quel lineare? Sono 30, 40, non di più. Con un watt sto pilotando, mio fra. Perché l'apparato sta uscendo un watt e mezzo, giusto tondo. Perché io gli ho agganciato uno di quei filari di fusano e più di così non mi dà. Capito? Se mi piazzo quello che c'era da prima di finale, mi dà 15 watt, però per va piano piano per la scala se ne scende, quindi fa 10 fino ad arrivare, te lo ricordi, no, piano piano calava. È corto in pratica, era in perdita, quindi ci ho messo quello di fusano e per non toccare le regolazioni ci sono interne. Adesso appena Mari mi dà quei due transistor originali, li metto gli originali e sono a posto. Se c'è una regola magari qualcosa gliela regola, ma gliela regolo. Per adesso non tocco nulla, se no mi scassa tutti i parametri, è un casino. Capito? Perché un finale lavora per dire con una tensione e l'altro è diverso adesso. Capito, Dio, capito. Capito, mi hai. E cappretto, cappretto, Dio. Ma il tuo telefono, c'è un attimo, Marco, riprendi. Ma togli la batteria, cazzo. Oia, sono allucinante, miei colleghi di Claudio. E dopo che si arriva in pensione vedrà la scena che vieni qui che non riesco, è tutto incasinato, vieni e dammi la mano. Eia, e io gli ho detto, oh, facci in nero, dopo che sei in pensione ci vai in nero, ti fai stare i soldi in mano. Dice, lì non si può fare. Va bene. Domani è festa, così è. Eia, domani è il giorno dei morti, mi pare, o dei santi, una cosa del genere, primo novembre. Che miseria, non capisco, me ne gioco. Ecco perché non mi risponde. Sto deficiente che... Stanotte vengono i bambini, mi, a bussare, di conto, al centro scherzetto. Tu scateni il cane e già fuggono. Scateno il cane? Come suona il campanello, Filippo Baia? L'hanno passato, manco di cane, hanno visto. Antonè, scatena il cane anche tu. Ehi, te c'è il cane, l'altro giorno allora, sono venuti quelli dell'Iceman. Capito, dice, dobbiamo mettere dei fuori, mi ha detto, dei triani. E invece furbano tutti e due furbi, sai, dal tuo piano e hanno suonato a Simona. Gli ha risposto il cane, uno ci è sceso giù, direttamente in ascensore. L'altro è rimasto davanti alla porta. E ha detto, sentivo a Simona, non voglio niente, fuori verbale, non voglio niente. No, davvero, io non posso aprire, soprattutto dice i bambini. Stai scherzando, se l'ho dovuto portare giù oggi quando sono venute le tre cose dell'agenzia, no, non fa, sì, ti si butta sopra, capito, non la musica già c'è uno, quindi vediamo, se riesco a aprire, c'ho caramelle, cioccolatini, insomma, li avevo già comprati, non è quello il problema, non so, però non sono riuscito a, perché come ho sentito il cane abbaiare sono partiti nelle scale. Sì. E noi qualcosina, mamma l'ha presa, giusto per farli contenti, ha preso caramelle con mozza la frutta, oppure liquirizie un po' aromatizzate, lo stesso tipo frutta, però liquirizie sono, poi qualche fiesta, patatine anche se le vogliono. Così per farli contenti. Adesso li apro io con la maschera brutta che ho io della morte. Qui si spaventano loro, glielo faccio io lo scherzetto. Ah, se apro io mi pongo la maschera dei mamontones. Che ia, quelle già sono abbastanza inquietanti. Ce l'ho bella, ma l'ho regalata oliena. Non l'ho regalata oliena, sono stato una manifestazione così e mi hanno regalato la maschera dei mamontones. No, bella. C'ho un cacchio fanno a tenerla, mamma mia, quanto pesante. Tutto in legno, no? Allora. Sì, la festa dei santi è domani, tutti i santi. E c'è il 2 la festa dei morti, mi la festa di Pomponio. E quella è il 9, io sono nato il 9 di novembre. Sì, ma l'onomastico è il 2. Sei sicuro? E quanti anni fai? Quanti anni fai tu? Io ormai sono ai 55. Eia. Ehi, già sei giovane a tutti i tinder. Sì, sono giovane, figurati. Alleluia. Accendi il fresco fuori. Sì, ma niente di che, dai. Non siamo nemmeno a febbraio, no. Non siamo al Polo Sud, no. Al Polo Nord. Ancora deve venire il freddo, se avete freddo adesso, ciu. No, me ne vado nella pettola, me ne vado. Dopo le 7. Dove devi andare da... Da Nicco vanno domani. Bevo una birra e poi me ne salgo subito. Cioè, ma tu scendi a piedi, tipo abiti una birra, sono di vari chilometri. Sì, scendo a piedi. Mi fa bene, mi scendo a piedi, per non fare sempre a casa, a girarmi i cusi. Dopo che do da mangiare la giampiera, 7:30, prendo, scendo lì, mi prendo la birra, poi prendo l'ultimo tram, sarebbe alle 10:20, una cosa del genere, salgo col tram. Io alla discesa, scendo sempre a piedi. Sì, già va bene allora. Andavè. Risorgerò. Natalino, ci sei Natalino? Ehi, dimmi. E te c'è fattende? Sì, stavo facendo cosa qua. Beh, è finito adesso di fare cosa? O anche tu stai facendo due cosette? Ehi, due cosette come fa Marco. Marco compra due cosette ogni tanto, capito? Ehi, altro che due cosette, eh? Mamma mia, la spesa che abbiamo questo mese, non mi ci far pensare, per carità. Adesso gli è venuto un altro chiribizzo. I contatori dell'acqua sono nel portone, li vogliono mettere fuori, altri soldi, vai, finché ce n'è, finché qua non ce n'è più, viva Gesù. No, ma io ce l'ho fuori lo stesso, sono tutti fuori adesso i contatori dell'acqua. È legge, non possono entrare in violazione di domicilio, il contatore devono fare lettura, lo devono mettere fuori. Ma lo sai il casino che devono fare? Devono sfasciare tutto, mamma mia! Ogni spesa che ci viene adesso, ma vaffanculo, e vabbè, noi se possiamo pagare paghiamo, se no, come ti ho detto già, soldi non abbiamo, andate in pace, fatemi la lettera, non me ne fate nulla. Lo senti che sarà? Ma chi è? Com'è Claudio? Ma chi è? PMR? Sì, Gio Maria. Sempre la giurito quando va a vedere. Manco le ascolto io. Che prendi Antone? Che vado a bere un goccio d'acqua fresca. Bevi un po' di acqua che fa bene, acqua minerale San Ciuccio. Fa crescere le rane. Meglio che crescano le rame che cresca qualche cos'altro. Io quando sete, Antonè, l'unica cosa che mi dissete è l'acqua. Acqua, pura semplice acqua. Non c'è bibita che tenga, non c'è bibita che tenga. Acqua. Io in camera c'ho sempre la bottiglia dell'acqua e in due giorni la faccio fuori, una bottiglia di 3,5 o da 2 anche, che io bevo sia quella gasata sia quella naturale. L'acqua è vita, altro che birra è. Birra. Al bar a bere, al bar. Quella canzone, te la ricordi? Acqua di fonte, bicchiere, come diceva mio nonno. Magari averla. Per quello basta mai avere porto, se c'è una villetta e attaccata alla villetta proprio nel fianco, c'è l'acqua che esce dalla villetta, figurati. Acqua bella ghiacciata quando è d'estate, invece l'inverno è bella gialla, si vede anche il fumo, più freddo c'è e più calda diventa. Invece quella che c'era in campagna era sempre ghiacciata, sia d'estate che d'inverno. Sì, per riparare il pozzo, anche c'è un becco avanti becco. No, non ho capito nulla, non c'è il radio. Aspetta, mette a maschera, non capire cosa dice, segnale 5, ma la radio non viene. È fortunato, sta collegando il microfono. È fortunato, hai un filo di voce, radio 1, 2 massimo. Adesso non sei uscito, ho sentito andando, capito? Sì, sì, sì, adesso sta andando, però mamma mia quanto è bassa la fortuna, se potessi fare qualcosa, un amplificatino, boh. Mi dispiace, adesso è riascarica, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. E ciao fortuna, bisogna fare ritoccarlo lì, è riascarica, dai. Vai Pomponio, io l'ho capito però fortunato, sono riuscito a capirlo. E tu Pompo, forse lo ricevevi più basso. Uia, uia. Sto tutto strusciando, lascio un vetro la copertina, qua, quella felpata mi addormento, mi. Mica devi mangiare adesso, cosa te lo metti, bubù? Alle 6:30, sì, fra, c'è un quarto, 6:30, dai, e così è tutto a posto. È appunto per quello, prima mangi, poi ti dormi un po', poi ti risvegli, poi ti dormi di nuovo. No, no, no, no, una volta mangiato non posso dormire alle 7-8, no, se no guai. O si dorme nel pomeriggio oppure niente, dai. Se no poi mi viene a gre di notte. Bene, vabbè, me la stai trattando bene quella radio, sì. Figlia, è sempre qua, in un fianco, non ti preoccupare, laggiù. Quattro portati adesso, anzi, quattro, cinque so. Questo è il tuo, sono cinque. I 288, vabbè, uno l'ho dato a Mario e lo sto usando lui. L'altro ce l'ho in scatola io. Qui c'ho quei due miei e il tuo. Eia. Lui quella sera, mamma mia. Quella sera lì c'è... Ah, Claudio. Guarda, ci siamo divertiti, fino alle 11:10 siamo stati al baracchino, no? 11:15 mi pare che era. Eia, noi siamo stati 5-10 minuti in più rispetto a Claudio, perché stava cadendo dal sonno e si sentiva, ma non connetteva più, dai. E infatti non connetteva più. Uiaia. Aspetta che lo attacco anch'io, aspetta. Vamos, España, escucha Italia, por favor. Canta, canta. Come, come? C'è lo spagnolo, c'è. Santiago 5. Ah, il tuo collega. Eia. E lascialo parlare, poverino. Anche lui ha diritto di parlare. Giallo, credo, giallo. E che si è fatto prendere Natali? Natali deve essere Tocchendi, Tocchendi. Il gioco della calzetta sta facendo. Allora, il gioco della calzetta sta facendo. E Marco dove è andato? Sono qua, sono qua. Natalino sta creando. Ma molte cose in casa, mi di queste cose, computer, baracchini. Cosa? Ho detto mica che ti stava chiamando Claudio, ho detto Natalino fa molte cose al computer o roba di baracchino. Devo sentire a Luca che mi serve una scheda video. Che... Oh, la torre facciata c'è. Sì, sto usando quella piccolina attaccata alla scheda madre, ma come ho messo un certo programma, ma dopo andare a fanculo. Oh, è a lui. Ciao a tutti. È Marco, è lì. Marco parla. Dimmi. non ho capito, dai. No, non ho capito, no. Vabbè. Vabbè. Ah, io, Nathalie. Ah, cosa hai detto, Nathalie? Che scheda video ti serve? Una scheda video mi serve perché ne sto usando una, cioè sto usando quella integrata nella scheda madre, però non si va un tubo. Ma di che cosa? Di un portatile o di un fisso? Del mio, di quello fisso. Quella che avevo mi si è crepata la scheda video, allora sto usando quella della scheda madre, quella integrata. Me ne serve una di quelle che si mettono al posto di quella là. Ehi, a me al fisso lo stesso è partita la scheda madre e non l'ho potuto usare. Ma quella integrata perché si può usare? Io attacco non ho visto, no? E vuol dire che non ce l'hai tu. Io ce l'ho integrata nella scheda madre, una piccolina, però non serve a nulla. Ho messo un programma e mi ha detto andare a fanculo, che mi chiude, mi ha chiuso il programma proprio perché non, la scheda video non ce la faceva. Lo so. Una nuova. Parla, Antonè. 1, 2, 3, 4. Natalino, compra la nuova. Ne sono tante chilo. Ma costano un sacco di soldi. Forse il pezzo che costa di più. Ma com'è, moderna o antiquata? Cioè, un vecchio computer o un computer recente? Non è tanto nuovo, no. Già si trova, adesso bisogna vedere, va. Dopo le feste andrò a cercarla. Se la vuoi nuova, chiedi in via Bucari. Magari qualcosa ce l'hanno. A me mi hanno trovato una scheda video degli anni 2000 e mi hanno salvato con l'altro computer. Però quelli sono i fidiati coi prezzi, già lo so io dove andare. Se uno la vuole nuova, a meno che non è, Luca non ne abbia qualcuna recuperata da qualche computer, e allora te la farebbe pagare poco. Adesso chiedo. Autore di controllo. Non mi era uscito il computer. Un po' uscito in Dio, un po' uscito in Dio, un po' camminava, un po' non camminava. Ma io lupo, qui ho un computer nuovo. Non l'ho provato. Usato nuovo, di un suo amico nuovo, monitor, tastiera, computer, tutto da Lenovo. Tutto originale nuovo. 250 euro mi sembra. Una sfera video, vabbè, delle mie, quanto costava in origine? Sai che non me lo ricordo, perché loro facevano l'assemblato, no? Mettevano tutto loro, io gli dicevo, voglio una scheda da tot, insomma, che sia commisurata a tutto il computer, no? Di classe media, ecco, gli chiedevo una disk, una RAM, una scheda video di classe media, insomma un computer di classe media, né troppo scarso né troppo, diciamo, performante. Non ho idea di cosa costa, però io era tutto da riformattare, cambiare, fare, ho detto a Luca, si è arrangiato Luca, ma l'ha comprato nuovo. Usato ma nuovo, capito? Molto più veloce, molto più un po' più recente di quello che avevo io. Ma state guardando chi l'ha visto o qualcuno, perché Gianni Doppio Room che fine ha fatto? Come Claudio, che fine ha fatto? Gianni Doppio Room, chi l'ha visto? Sta lavorando di sera e quindi non può entrare. È vero che l'avevo detto che uscivo a tardi. La sua azienda che fa fare bene. C'è schifo. Valerio, mi accoppi Valerio. Vabbè, un altro cristiano sembra che sembra un altro cristiano. Beh, ormai non è burottoso, è tutto sul casino. Questa è bella, forte, quasi 9-10, sì, qua, pulita, bella. Ehi, affortunato. Non ho capito. Sì, un attimo che mi sposto al 12. E cosa c'è sul 12? Oh, ci siete. Ehi. No, Claudio sto dicendo. Dice, qualcuno ha detto, andate tutti al 12. Eccomi qua qua. Mi adelante, adelante, para quelos, adelante. Non avete che mi fare da facile, dai. E vabbè. Allora niente, dai. No, è che non mi ero accorto che eri al 12. Eri al 12. Che prima era entrato Fortunato, stava facendo pazzissimo, radio 1 e tutto a scariche. E stava riparando un microfono, adesso ce l'ha messo a posto, dai, va bene. Come intende Portugal? No, io parlerei qua, però è arrivata la pappa, devo mangiare, dai. Poi già sono qua, vi sto ascoltando, dai. E io già vedo il muro, mangia, mangia, già sono qua. Portugal, entiende Portugal? Atiento Portugal, entiende Portugal? Ci sto vedendo di... Stiamo parlando in coppia. Vabbè dai, rimango in quel rixi anch'io. Chiamatemi quando siete disponibili, ok? Già sono qua. Oh, comunque c'è Natalino, c'è Pomponi anche qua. Non sono andati via. Natalino sta facendo cosa? Impegnato. Pomponio sta contando le lattine. E sicuro, sai che sto facendo una cosa, sto guardando delle schede. No, guardando se c'era la scheda audio video. Invece ho trovato una scheda per lanciare due parabole per il computer. E infatti già sono qua. Chiaramente fa poco. Piace questo canale, è sempre pieno di spagnoli, portoghesi, tutti qua vengono. Il canale 10 è molto trafficato in Spagna, Portogallo. C'è uno che ci sente parlare e dice adelante, avanti, adelante, però poi lo sovramusulano. Sono questi due che stanno parlando tra di loro. E vabbè. Adelante, adelante, c'è manco Condor al volante. Adelante. Al volante, pericolo costante. Allora, stai attento al mangiante, se vedi venire da mamma, dice, vado a vedere cosa c'è da sgranocchiare. Mio me c'è a me lì. Adelante amico, adelante, se intende Giovanni Appioli al volante. Buona estate compagnero. Aquí la estación Sparviero dalla ida de Sardegna. Sì, aggiunto se sentiva Giovanni non più al volante, ha detto vabbè. Viva Catalogna, Catalogna è stato libero, indipendente. Che gli si incazza. Capito? La Spagna, la Catalogna non la vuole mollare. Non vuole riconoscere che è uno stato indipendente, capito? Anche perché la Catalogna si è fatta tutta da sola, capito? Si è fatta l'elezione da sola, si è autoletta, stato indipendente. Invece la Spagna è il dentino avvelenato, capito? Io glielo so, glielo sto seguendo il casino che c'è. Vabbè, però anche loro hanno diritto. Non possono stare sempre attaccati agli altri. Mamma mia, come sto? Cazzo, domani sono i santi, ma te le immaginate? Convinto che domani era 31 o 30, quanto cacchio è? Invece domani è uno, porca miseria, non ho comprato un accidente, né papassina, né formagella, domani è tutto serrato, anche l'Eurospin è chiuso domani. Ma perché volevate festeggiare? E cosa c'era a festeggiare? I santi, boh. A me non è... Già lo sai che non sono nemmeno troppo praticante, no? No, non è per quello, perché mi sono dimenticato di prendere appunto papà sì, qualche formaggio, eccetera. Devo prenderli oggi, e per stamattina sono uscito. Ero convintissimo che domani fosse giornata normale. Invece domani è festivo, è tutto chiuso. Vabbè, pazienza, vedremo il giorno dei morti. C'è già un casino, mi. Quando è che sono uscito? Due giorni fa o tre? C'era già voluto per andare al cimitero. C'erano già i vigili urbani dicendo, come si dice, ordinando il traffico. No, non ci vado io. C'è andata mia moglie molto prima della settimana scorsa, delle fiori alla mamma, al padre, l'altro ha pulito la tomba, domani no. Tu domani non ci scendo, ci sarò dopo domani. Sulla nuova oggi diceva, no, online, che uno si è sparato davanti a San Gavino a Porto Torres, niente ne sapevi. Mia moglie me lo stava dicendo, stasera si è seduto una panchina lì a San Gavino e si è sparato. Mi ha detto lui. Non si è mai cosa fulla la testa delle persone, bisogna stare sempre attenti. Se invece sparasse lui, sparava qualche passante che non c'entrava niente. O peggio, quelli che sparano ai figli e alla moglie, che ammazzano moglie e figli. Vabbè, purtroppo un dramma, quando succede un dramma, c'è qualcuno che non ce la fa più, non lo so. E chissà cosa gli passa nella testa davvero. Poi il nome non l'hanno detto perché era notizia fresca, è successa nel pomeriggio o a mezzogiorno, non lo so. Poi domani uscirà il nome sicuramente, vabbè, brutte cose. Guarda se c'è Valerio ancora, dai. Sì, c'è Valerio. No, ma non mi dicono quando succedono queste cose, non mi dicono. Metteranno le iniziali, ma non mi dicono. Resta di coraggio, grazie, mamma mia, resta di coraggio. Sì, tanto domani usciranno le necrologie, basta vedere Porto Torres, ci ha lasciato improvvisamente dalle tali, a meno che addirittura non facciano, cioè non è obbligatorio fare la necrologia sulla nuova, non è obbligatorio. Però bene o male si scopre, per sentito dire, sai, su quei gruppi social network, bene o male si viene a sapere, vicini, no, gente che lo conosceva, come quella donna che mi era rimasta impressa, si era buttata al Ponte Rosello, hanno cercato di salvarla fino all'ultimo, ma si è sfilato giù botto. Quella, ho visto la foto, era una bella donna, mi è rimasta impressa, lo sai, poveretta, chissà cosa, sono sempre drammi umani quelli, non ne parliamo, dai. Natalino, io se sempre vendi roba, ci abbandoni, ci lasci soli. Allora, il computer smontato, smontate il computer. Natalino è irremovibile, quando sta facendo roba non c'è verso, eh. Ma è normale, scusa, stai facendo cosa? Non è che puoi stare a rispondere a fare. Ha detto stava facendo cosa, quindi lasciamolo fare le sue cosette. Io che siamo sempre due gatti. Pomponi, almeno tu riprendi, cosa stai facendo? Lascia la bionda. Sto facendo la barba, la bambola gonfiabile. La barba. Se non stai attento, vado su, io scoppia pure mi la bambola gonfiabile. Italiano. Italiano Musantrenda. Esistono anche i bamboli gonfiabili, lo sai. Per le donne, bamboli gonfiabili. E ci hanno mezzo, una mezza cedda, però rimane sempre molliccia, perché si gonfia anche quella, capito? Non è molliccia, non è molliccia, ma è grande. Ah, cosa così squallida, guarda. Sia la bambola che il bambolo. Sono brutte, sono fatte male, dai. Invece esistono quelle bambole che costano però tipo 5.000 euro. Sono fatte perfette, in silicone simil pelle. Sono identiche alle persone vere. E hanno anche un endoscheletro di materiali plastici, non so cosa sia, in modo che li fai riassumere tutte le posizioni di voi. Ma sono perfette, ma costano migliaia di euro, migliaia. Capito? Non me la posso neanche comprare, costa troppo. Vabbè, scusa, perché non dice un altro giudice per effettuare di legna? Pinocchio di legno, mi. C'hanno tutte quelle lì, sono fatte bene, c'hanno tutti gli apparati pronti, no? Tutti gli orifici, uguali a quelli veri. Unire a Mato Giulio, già sarà già lui, già te la fa bene. Ti fa le zinne dure dure di legno, così quando le morsi che ti mesce la dentiera. Così mi si rompe del tutto il dente, che parcheggiato lì. E si è spaccato in diagonale, si è spaccato proprio in diagonale. E purtroppo non lo so se si può ricostruire. Vediamo, se no pazienza, casomai mi faccio, me lo faccio innestare con il dente. Sai, fanno un trapano, mettono la filettatura e poi lo avvitano il dente, capito? È un casino, perché i denti frontali sono importanti, che se no sembri, dentaccio. Ah, e anche quello fa Marco Giulio, piglia due mascelli, lo costruisce e se l'attacca a coso, a colla. Insomma, oggi parlare non ne voglia nessuno, davvero. E vabbè. Comunque, se arrivano gli spagnoli ci deve essere un po' di propagazione, sui canali alti. Qualcosina ci deve essere. E ti ho detto, lineare non ne posso attaccare nemmeno, anche se volessi parlare, perché no? Non c'ho il filtro. E rischio di fare TVI. Preferisco allora astenermi dall'usare lineare. No, c'è anche propagazione 10-20, già c'è un po' di propagazione. È dovuto a questo tempo di passaggio, boh. Doveva piovere ieri, oggi, invece nuvoloso, stamattina è uscito uno straccio di sole, un po' di freddo, poi di nuovo di beccio. Se non piove siamo disperati, ragazzi. Se non piove è un casino, un casino. Tutti i bacini sono sotto il livello di guardia. Se non recuperiamo acqua siamo in netta crisi idrica. Ehi, lo so, è tutto annuvolato, però fa due microgocce, proprio microgocce, due capocchi di spillo di acqua e poi non ne fa più. È una presa in giro, dovrebbe fare un bel acquazzone come me lo ricordo io. Caspita, quando ero piccolo c'era stato un acquazzone, non vedevi il palazzo di fronte, che era a distanza di 50 metri, dalla pioggia fitta non vedevi il palazzo di fronte, proprio un nubifragio era. Sì, vabbè, anche quello che ha fatto l'altra volta, c'era pioggia bella, durato poco, però già era abbastanza forte, dai, capito? No, dove piovere, Marco, piovere tutta la notte, la mattina, senza essere dannosa, bella, limpida, però devi va, le strade deve correre l'acqua, deve correre l'acqua, se no siamo fregati. Sì, qua fa uno spruzzettino, fa un po' di scena e poi e finisce subito però. Mannaggia gli turchi. Una volta, a parte quella volta, o forse era quella volta, qua dove ci sono le scaline, vedevo il vaglionte di acqua, scendeva l'acqua tipo cascatelle, un vaglionte di acqua, era impressionante a vedere. Ma qua deve piovere, perché mi sa bene, è un casino, non sta piovendo da nessuna parte, tutto secco. E vedrai che finiremo a fare la fila con i bidoni all'autobotte dell'acqua. Macello. Naturalmente la regione, bisogna sempre pagarsela di tasca propria, però non è che dicono prendiamo degli autobotti e distribuiamo alla cittadinanza. No, ce lo dobbiamo pagare noi. Io adesso aspettiamo ancora questa settimana, vediamo un po', poi sono già d'accordo con l'amministratore, intanto me ne sono sempre occupato io, ci abbiamo il posto qua, inizio a fare tirare le pompe, dare una pulita, anziché mandare in vascone l'acqua, e sta quelle, e d'accordo che va in vasca e lo faccio scaricare nel tombino, all'interno sempre qua, per pulire bene la pompa, pulire tutto, così la teniamo pronta, nel caso manca l'acqua, attiviamo il pozzo, capito? Dove va il pozzo, attinge direttamente ai due vasconi da 30.000 e 30.000, e poi manda con l'autoclave nelle case, quindi a noi non ci manca mai l'acqua, capito? Non ci manca mai, è già successo, siamo stati tranquilli. Qua è diverso. Nonno non si è mai voluto allacciare ai vasconi sotto, c'era un vascone a testa di diritto, non l'ha mai voluto fare in tanti decenni, allora i più furbi se ne sono presi due di vasconi, capito? Come ti ho detto ieri, il piccio di sotto che sempre sa piagare, e quello di sopra, i più furbi, capito, i pillonfi. Pazienza. No, abbiamo problemi, cioè, abbiamo la diretta che è da via Milano, quindi per caduta e l'acqua c'è sempre nel vasco, arriva sempre anche quando non ce n'è a Sassari. Però dovendo abbassarsi i livelli, quindi avendo un problema idrico proprio di arrivo, attiviamo un botto. Attiviamo un botto e mandiamo direttamente ai vasconi, però prima va pulito perché è l'anno scorso che non usiamo. E quindi adesso va pulito, mettono d'accordo. Abbiamo una bella pulita e via, faccio sfulgare e poi riempiamo i vasconi come facciamo sempre quando non c'è acqua. No, qua non manca niente, Marco. Qua c'è tutto, è stato fatto, tutto a regola d'arte. Ma ieri poi sera, mezza serata, quando parliamo noi, è piovuto o no? Perché ieri sera, no, dopo che avete chiuso, premo la portante così e vedo che la lancetta non saliva come doveva. Metto lo smitter, il rosmetro, e c'era 1,5 di stazionaria quasi. Sì, 1,5 era. Allora temevo che qualche radiale fosse caduto o piegato. Invece stamattina, nel pomeriggio, vado lì in strada a guardare. No, l'antenna è dritta, i radiali ci sono tutti e tre. Non è successo niente. E poi le stazionarie oggi sono 1,1. Non so, forse c'era umidità, qualcosina, ma 1,5 è poco, non è che non c'è da farsi problemi, però intanto me ne sono accorto che era salito. No, io ho portato il cane, non ha piovuto, secondo me. Non lo so, stazionare qua, tu sono a 1, rapporto a 1, non c'è niente. Uso solo come cosa trovati, metto il commutatore attivo 130, non uso neanche come accoratore per stazionare, non è accoratore dell'automatico del 440 staccato. No, mi ho fatto lavoro perfetto, l'antenna regolata bene, quando regolo l'antenna poi non c'è bisogno di nulla, capito? Lo tengo solo come strumento. Va bene, allora Antonè, hai finito di questa mondetta al computer? Sì, poi non è vero che è andata a comprare le lattine. Comunque anche qua adesso, aspetta, no, non si muove, non è 1,1, non si muove proprio. Oggi va bene, ma ieri 1,5, ma no, sicuramente era l'umidità della notte, perché sai come bagna l'antenna, diciamo fa un conduce tutto, no? Tra radiali e stilo fa un coso unico, e magari qualcosina in più ci può essere, ma 1,5 non è niente. Sì. E quando penso come funzionavano quei portatili, gli antennini, sono stazionati 3, 4, 5, ed era nella norma, nella norma. E io credo che i portatili lì funzionassero con 1,5, stazionati, massimo 2, invece cioè 3, 4, 5, aspetta, mi sono assustato. Meglio per il finale, vuol dire che sono belli resistenti. No, ma io non ho 1,1, 1 rapporto a 1, praticamente la lancetta rimane sull'1, ferma, capito? 1 rapporto a 1, no, 1,1, non si muove neanche, va bene, anche dei canali alti, dimmi, come del 90, entra il vento da questa finestra, sta girando a maestrale, manco domani piove, se non gira all'imbecio manco domani piove. Sì, ma anche qui non è 1,1, prima credevo, no, 1 sta a 1, 1,1 ce l'ho sul 40, sì. Perché c'ha le guarnizioni, quella bobinetta in quel coso di plastica, sai, posso ottenere ma fino a un certo punto, poi essendo antenne così economiche, andanti, sicuramente sono fatte in Cina, sicuramente sono fatte in Cina e sia la Sirio sia la Midland le comprano e ci mettono il nome d'oro, tutto lì, perché è uguale, la Sirio GPE o GPS che sia è uguale a questa, alla New Energy 5 ottavi, è lo stesso la mezz'onda. Sì, allora quando lo metti Marco? Sassari, domani cos'è? Mercoledì? Così è. Mercoledì domani. Precipitazioni 10%, umidità 58%, vento 11 km orari, 23 gradi, per lo più soleggiato. Guardami tu, tutta la settimana, sino a sabato, domenica, vediamo, lo sto mettendo, domenica Sassari, temporali sparsi, 22 gradi, precipitazioni 60%, umidità 71%, vento 21 km orari, domenica forse piove, ok, domani che è mercoledì, così è, domani è mercoledì, niente. Aspetta che regolo un attimo una cosetta qua. Cappa. No, ogni tanto bisogna fare dei piccoli ritocchini qua. Se n'era andato lingua tedesca, vedevo die oggi anziché martedì su questo orologio, vedevo die. Se n'era andato automaticamente in lingua tedesca, forse perché prende il segnale proprio da Francoforte. Quindi 31, 10, martedì, sì, ok. Capito? Trovasse tondi. Regolato che sono andato bene. Sì. No, siccome prende il segnale da Francoforte, no, per regolare l'ora, ha messo la lingua tedesca nell'orologio. E vedevo, anziché martedì, die. Capito? E ho messo di nuovo la lingua italiana e si vede martedì, che sta per martedì, no? Vabbè. Sempre martedì è bravo, sia in tedesco che sia in inglese, sempre martedì è. Vediamo un po' se c'è Massimiliano all'ascolto. Attento Massimino Bulldozer! Ma giusto che sempre in doccia che. Oh Claudio, questi ti volevo dire della frequenza, questi orologi, no, stazioni cinemetriche, sono radiocontrollati, praticamente l'orologio atomico, il più preciso orologio al mondo, no, che è a Francoforte, trasmette via radio, trasmettono l'ora giusta via radio, si chiama mi pare DSC o DCF77, il tipo di segnale, no, e lavora a 77 kHz di lunghezza d'onda, capito? 77 kHz, lo riceve proprio dalla portante, volevo dire, mi è a 77 kHz, un bel basso mi come frequenza. Addirittura a 77 kHz. Ma com'è così basso? Hanno scelto quella forse perché fa il giro del mondo. Trasmettono da Francoforte e quindi fa tutta Europa, Nord Africa, copre anche Turchia, tutta Europa e Nord Africa, un po' Medio Oriente copre anche, capito? Sì, non mi ricordo DSC, DCF, comunque 77 kHz la frequenza di trasmissione di dell'ora. Infatti anch'io mi ero stupito che fosse così bassa. È strano, anche a me mi sembrava più alta come frequenza. Ma quello è preciso, Seia. Naturalmente non è sempre collegato, ogni tanto perde il segnale e poi lo ritrova. E se lo fa proprio al millesimo di secondo, è l'orologio. Comunque questo è solo il sistema che usano a Francoforte, poi in tutto il mondo hanno frequenze diverse, addirittura chi usa, che ne so, 9 MHz, virgola fruscia per trasmettere questi segnali, capito? Ogni paese ha sistemi diversi, Giappone, gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile e via, è così, dai. Questo è abbastanza basso, dai, forse uno dei più bassi credo sia. No, quello più basso qual è? Avevo visto sul computer, Claudio, non me lo ricordo, ma credo che questo sia uno dei più bassi, Anch'io l'avevo visto, non me lo ricordo proprio. Guarda, vendono Redbank orologi da polso radiocontrollati e ce n'è uno Casio che mi piace parecchio. È lo stesso, ogni notte, sai, perché la propagazione del segnale è lì, soprattutto la notte credo che sia, si connette a questo segnale e aggiorna l'orario ed è sempre precisissimo l'orologio. Un Casio non costa molto, costa un 55 euro mi pare, molto carino. Boh, vedrò se è il caso, se non me ne affutto di. Boh, non me lo ricordo io, l'ho visto da qualche parte ma non me lo ricordo, non lo so dove. Molto probabilmente anch'io l'ho visto al computer. Non so che tipo di segnale sia, no? se mette suoni, se è un segnale digitale, quello non lo so, l'avevo letto ma non me lo ricordo. E anch'io l'ho visto da qualche parte ma non me lo ricordo, non lo so. Cosa vuoi dire? Vabbè, però ti ripeto, è molto preciso quello. Cioè se ti dà il... proprio i... come si può dire? Al millesimo ti dà proprio l'orario giusto, capito? Senza avere virgole da nessuna parte, né? È il millesimo al secondo, bravo. Esatto. È molto, molto preciso. Molto, molto, molto, molto. Va bene. Beh, è terminato di fare, vale. No, io ognuno qua, ne ho due, vabbè, uno analogico, uno digitale, uno GMT, uno no, e basta, poi non ho altri orologi. Cosa ne vai? Gatta gatta, vediamo qua, questo cos'è? Ah, ecco, così. Che prendi, Marco, vai. Sì, scusate, ho preso il cellulare adesso che era in carica e così ti do informazioni maggiori, dai. Ehi, non c'è problema, dammi informazioni, va bene. Vediamo un po' se c'è Massimiliano in ascolto. Attenzione Massimiliano, ci sei? No, non c'è. Giuseppe l'hai sentito? Vale, non è che stava modulando, no? E infatti io gli ho detto per lui, perché poi non voglio sorprese, capite? No, ma aspettavo notizie che mi doveva dare se questi della GBC sono andati a fare sopralluogo, se lui ha comprato tutto il materiale, no, non so niente, vabbè, mi farà sapere, dai. E lui ha detto che c'hanno tutto, cosa ne so io, non lo so. Lui ha detto che hanno tutto, capito? Così mi ha detto, se evidentemente si è informato, non so, però ha detto che c'hanno tutto, allora va bene così. Beh, Giuseppe già lo conosce, già vorrei di 58. Ho detto controllate il cavo, e quando saldano il PL giù in terra controllerò col tester, guarda se la saldatura è fatta bene e poi glielo fai agganciare. Se ti accorgi che secondo te non è fatto bene, faglielo rifare. Cioè per queste cose già è attento, già lo sa lui, non è che, capito? Secondo me fanno spatticci. No, ma non credere, dai, già è gente che prima che sia attenta e che faccia le cose fatte bene, se no verranno loro, cioè cosa vuoi dire? Io se lo faccio io quel lavoro so che lo devo fare bene, capito? Non ne ho problemi. Se quello fa fanno gli altri, non so. Il problema è che bisogna la scala. Se fosse più basso, problemi non ce n'era. Allora Claudio, qua dice che trasmettono sui 77,5 kHz, no? 77,5 kHz e il trasmettitore è da 50 kW. Addirittura 50 kW? Sì, sì. Ce ne sono le potenze variabili di tutto il mondo. Ah, ti fa sentire l'emissione del segnalino, senti cos'hai. Segnale udibile, così è. Dove lo stai prendendo quel segnale? Da come si chiama? Wikipedia, dal computer. Si fa vedere emissione di tempo e frequenza campionata. Quello che trasmettono loro è questo tu che contiene i dati, le informazioni. Non l'avevo mai sentito. Non l'avevo mai sentito. Perché sai, è molto in basso, chi è che ci ascolta a 77 kHz, no mega kHz, figurati, è molto molto in basso, caspita, come? Allora sto vedendo, sì, una serie di pali, non lo so cosa siano, ma ci sarà un dipolo, credo, un dipolo, allora, dunque, due antenne sono sostenute da dei cavi orizzontali, sostenute in posizione da diversi pilastri, della lunghezza di circa 200 metri. Minchia. La pipì devo fare, aspetta. Eia. Dunque interessante, c'è un orologio da polso Casio molto carino, elettronico, no? Di quelli che sali liquidi, che lo stesso riceve il segnale, così non lo devi mai aggiornare, è sempre preciso, anche all'ora legale fa un automatico. Ah, così è, bello bello. No, 50 kW, avere al baracchino, ah. Sì, qua c'è la copertura anche, noi vabbè siamo abbastanza vicini, si prende parte del Nord Africa, un po' del sud-est, no l'est, sì, Polonia, Ucraina, tutta quella roba prende. Comunque ci sono molti, ce ne sono molti di più, ce ne sono molti di più, dipende dal paese. Arriva per lo più di notte qua, sai, è chiuso in casa qui e quindi, però non riesco a trovare gli altri sistemi non riesco a trovarli, mannaggia, perché in base al paese hanno un coso diverso, capito? Allora, rassegna al carrier amplitude. In AM la trasmissione non è digitale, in AM with code bla bla bla bla, boh, chi ne sa, vabbè, però il segnale sarà, non so, digitale, no? Qui parla di streaming di dati 512 bit, sì, qualcosa, vediamo se trovo, sto leggendo in inglese, quindi ostico, vediamo. Allora, like most long way time transmitter, anche intorno, ce n'è una 162 kHz, 2 MW, TDF, time signal, Francia, ecco, la Francia ha 162 kHz, e sono 2 MW, 2 mega, non 50 kW, 2 MW, sono 2 milioni di watt. Minchia, e beh, hanno le centrali nucleari, vabbè, anche in Germania, ma ci vuole una centrale nucleare solo per l'orologio atomico lì per mandare il segnale. Qua ci sono un sacco di informazioni che però non capisco, poi sono lunghe da leggere. Contro, curarsi, niente, da te, proprio. No, allora sì, questo comunque è sempre quello che dice il DCF-77, ma non parla di altri sistemi. Dove l'avrò trovato? Boh. DCF, Delta, Charlie, Foxtrot. però me ne ricordo molti di più in base ai paesi. Vediamo. Nanna, a trovare il sito, vabbè, pazienza, dai. Qua non fa niente. Sì, sì. Ehi, tutte le radioline anche attuali che abbiano la M hanno la ferrite. Sì, sì, anche lì come CR5 che avevo io con la ferrite per sentire le frequenze basse. Ehi, magari in scala ridotta, no? Perché l'orologio, sai, è più piccolino. Caspita. Caspita, la Francia 2 megawatt. Cazzo diavolo. Le centrali atomiche sono una bella cosa, purché non succedano incidenti, se no sono casini poi. Per esempio, quando ero bambino mi regolavo l'orologio col... ti ricordi il segnale orario del telefono, no? Telefonavi a un numero e ti diceva ora esatta e ti diceva l'ora. Poi col televideo lo facevo, no? Mi regolavo col televideo, che bene o male è abbastanza accurato. E poi, vabbè, questo sistema è carino. Anche a mamma ho detto, la vuoi una radio? Un orologio che ti indica l'ora, la data, il giorno della settimana e anche la temperatura. E lì, no, cosa me ne faccio? Almeno hai una sveglietta che segna sempre giusto, no? Claudio, vabbè, cambiata l'acqua alle olive? No, che cosa? Ehi, Natalino sta facendo roba, magari sta ascoltando. Ma Natalino è sempre impegnato e non parla mai con noi. E quindi? Beh, pisciacchiato hai. Ma sto zanocchiando. Sì, allora, non sono riuscito a trovare gli altri sistemi, però la Francia usa un segnale simile a 162 kHz e usa la bellezza di 2 megawatt di potenza. Non 50 kW, 2 megawatt, 2 milioni di watt. No, faccia per carboato. Sì, come ho detto prima, deve essere che stanno usando la centrale atomica solo per alimentare quello. Ehi, Paola, sarà. E sono le 7:10, solo. E vabbè, sono le 8:10, così è. Ah, io comincio Natalino a parlare. Tanto se la scheda video non funziona, non funziona, boh. Ma lui c'ha il computer acceso e sta parlando lui. Eia, arriva in Nord Africa e fa tutto l'est, la Polonia, tutta quella zona lì, il medio, come si chiama? Ehi, già capito là. No, qua no, qua ogni tanto lo perde, perché sai, siamo in città proprio, sono al piano rialzato, sono proprio in basso, però ogni tanto ci collega e lo aggiorna. Ah, ho capito, sì. Comunque sfrutta anche questo la propagazione ionosferica, la stessa delle onde nostre dei DX. Ionosfera. Come si chiama ionosfera? Vabbè, noi in HF si sfrutta la ionosfera, no, già lo sai. Invece in VEU troposfera. Ho capito. Adesso ti faccio sentire un'atmosfera, adesso cambio che poco fa, tra un passaggio e l'altro ho commutato, mi ho messo il cuffio e mi sono spaventato. Allora, questo è il 440 con l'MC85, ok, adesso ti faccio sentire il 430 con l'MC85, guarda la differenza che c'è. Vabbè, già come potenza siamo una cosa allucinante. Senti la radio che è questo 430 con l'MC85 e non ho toccato niente, Il livello del microfono è lo stesso. Senti la differenza che c'è, e già puoi dire che distorce, mica sto parlando a voce alta, né? Senti ogni radio allucinante, 430, e questo è il TS430. TS430 sempre con l'MC85, però, sempre con l'MC85. Adesso mollo e ricomuto, praticamente cambio nuovamente, metto il 440. Tieni a mente questa modulazione e ti passo col 440 e mi dici dici com'è, se c'è molta differenza, guarda. Ecco qua, questo è il 440, c'è molta differenza, è bella lo stesso, però quella là spinge di più, no? Questa è bassa. Ecco qua, no, avevo toccato io il tastino del processore. Guarda la differenza che c'è, cioè da questa all'altra, questa è il 440 e quello là era il 430, la senti la differenza? Anche da te Marco è così, la stessa cosa, quindi le prove che abbiamo fatto ieri prevale sempre il 430, beh. Mo. Ma questa non è malvagia però, va bene, è più forte dell'MC60 però. Beh, lì hai anche più opzioni su quel microfono. Allora, aspetta, Valerio, allora il più basso in frequenza è il Giappone, 40 kHz. Adesso ve ne dico, per esempio, Giappone 40 kHz, che ne so, Stati Uniti 66,66 kHz, Svizzera 77 kHz, comunque si sale, 162 kHz, 2,5 MHz, 3,33 MHz, 5 MHz, 785 MHz, 10 MHz, 14,67 MHz, 15 MHz e alla fine 20 MHz degli Stati Uniti a Fort Collins, Colorado, con 2,5 kW, poco, copre poco, capito? 20 MHz, fino ai 20 MHz arrivano questi segnali degli orologi radiocontrollati. Ma 20 MHz è un bel mi, è un bel 20 MHz, ci usano tutta l'HF mi, chi più chi meno, comunque la più forte è la Francia, La Francia è la più forte con quei 2 MW, incredibilmente. Ma è regolare una cosa del genere, o no? Loro sono autorizzati, ci mancherebbe. Sì, ma fuori mai, tutta di sabotezza viene trattata e fuzza. Perché loro vogliono arrivare nelle loro colonie, tipo, non mi viene il nome, mannaggia, Algeria, capito, quei posti là, quei posti zozzi, vogliono arrivare a trasmettere lì anche il loro segnale. Ah, ecco, per quello è che hanno questa percentuale di potenza. Non lo sapevo, so che è molto forte, ma non sapevo che usassero questa potenza. Guarda, per ricevere quei segnali ci vuole, perché non credo che i K ce la facciano, e partono da 0 MHz, no? Ci vogliono ricevitori, come si chiamano? Napoli, e a onde basse, dai, onde molto basse, ricevitori ricevono onde molto molto basse. Vale, voce, sì, le VLF, ci vogliono così ricevitorini autocostruiti che vanno sulle VLF, dai, sulle frequenze molto basse. E c'è chi ha lobby, ci vengono dei kit, chi ha lobby si decodifica anche l'ora con dei kit autocostruiti, no? Hertz. Ah, Natalie? Hertz. Ciao Giù. Per esempio anche i sottomarini usano quelle frequenze molto basse, molto molto basse. Mamma mia. Anzi, adesso mi guardo le frequenze dei sottomarini, riprendete, vai Natalino. Vai Natalino, che è Giulio. Ciao Cla, Gers, la V. Vi sto ascoltando da 3 minuti, 30 secondi, 3 minuti e 30 secondi. A buoni a volte, ma sono Giulio, Ehi, da quando ho fatto quell'operazione lì, è un bijou. Una bajoule. Non un bijou, una bajoule illuminata. Ciao Marco e ciao Valerio, se mi sente, ma non lo so, Valerio, mi senti? Anche io lo sento bassissimo, mica. Sto usando l'altra radio, per quello senti basso o giù. Vabbè. Perché se sminuzza, è chiaro, non sono favorevole io per se sminuzza. Vabbè, non vuoi parlare con Valerio, vieni qua, ti siedi e parli con Valerio. Ah, guarda che non hai perso niente, mio Giulio. Io se sento mi fa piacere perché è un amico, però se non lo sento è meglio. Ah, bene, ce l'ha fatto verso. Ma guardi. E mi è andato giù, pronto sì, non ci ho di comparati, direi, boppe e corna. Auguria, ma ci comparate un paio di guanti d'assaggio, fa fare applausi. Ma li ho visto lì per ieri, e mi Giulio ha sofferto a Bea Verona, però una grandissima squadra. È una grandissima squadra, veramente. Non credevo che l'allenatore potesse ribaltare una squadra del genere, perché erano veramente dei buffi, ma giocano per vincere adesso, con la grinta, con la voglia di fare, veramente, complimenti all'Inter, e sono sicuro che quest'anno merita la champion diretta l'Inter, sicuramente, perché se non perde come sta facendo, lì il Napoli, la Juve non la prende più. Assolutamente. Avanti Marco, cos'è che stai guardando? I sommergibili? Sto guardando qua, dice, frequenze ELF. I sottomarini comunicano frequenze ELF, no, extreme low frequency. Lì c'è... sono frequenze intorno ai 76 cicli al secondo. Ma cosa sono? 76 Hz? Non è possibile, no? Valerio? Guarda, secondo te è chiaro. Sì, è così, caro Marco, è così. Sono bassissime, molto, molto basse. Molto molto basse, con dei segnali molto particolari, e Giulio dovrebbe sapere, vero Marco Giulio? Ok, guarda che magari si riferisce alle onde Hertz o Marco. Sto guardando altri siti, un attimino che me lo carica. Comunque sì, sapevo che era, e poi c'hanno antennoli lunghissimi, dietro si portano questo cavo lungo, sommerso, lungo, perché sono frequenze... Se fai la lunghezza in metri dell'onda, non so se siano 4.000 metri di lunghezza d'onda, 4.000 metri, 4 chilometri. Sì, ma ci dovrebbe essere in Hertz comunque, guarda. Ehi, comunque 76 cicli, ma immagino che sia 76 Hertz, no? Che sai, megahertz si dice anche megacicli. E quindi vediamo cosa dice qua, a me interessa solo la frequenza, vediamo. Bla bla bla. Sì, dai, un attimino che leggo, allora, riprendete voi comunque. Io mi ricordo che in Erte, perché quando io ero a Maddalena, alla scuola di vissuto ufficiale, siamo andati a Santo Stefano un giorno, e l'ufficiale di guardia gli ha detto se mi faceva vedere la sala controllo, praticamente, dove c'erano le radio, e l'ho detto appunto come trasmettevano, era un americano che però parlava molto bene l'italiano, il comandante, lo ricordo sempre, che comandava anche la nave appoggio, la Gilmore mi sembra che si chiamasse, non mi ricordo, Santo Stefano, e comunque mi aveva detto che trasmettevano molto molto bassi in Hertz. Allora, dunque, la trasmissione a frequenza così basse dai 70 agli 80 Hz, pensa, 70-80 Hz, intorno a quelle frequenze, dice sono estremamente lente, trattandosi di onde di lunghezza pari a circa 4.000 km, cioè la lunghezza d'onda non è 4 km, è 4.000 km di lunghezza d'onda. Dice, per questo tipo di trasmissione sono necessarie antenne di estensioni enormi, in quanto un'antenna di dimensioni ridotte rispetto alle onde, vabbè, prodotte, perde molta dell'efficacia, vabbè, giustamente. Minchia proprio, vai Giulio. Ok, ma cosa stai controllando? Ti stai acculturando tutte le frequenze del mondo? No, prima siamo passati dal parlare, stavamo parlando di orologi radiocontrollati, no? Gli orologi sveglia, no? Da tavolo, no? Che ricevono un segnale trasmesso dall'orologio atomico, no? Un segnale a 77 kHz, anzi 77,5 kHz. e gli viene trasmessa all'ora giusta, no? E gli orologi atomici sono tre e sono precisi al millesimo di secondo, e tramite quest'onda portante a 77,5 kHz trasmettono l'ora, e il trasmettitore ha una potenza di 50 kW, e quindi trasmette da Francoforte, e 2000 km trasmette questo segnale nel raggio di 2000 km, quindi arriva in Nord Africa, tutta anche in Russia arriva, capito? Ok, ho capito, sì. Beh, sono frequenze particolari quelle, caspita, già lo credo. Quelle sono frequenze che ci vogliono delle potenze enormi. Una centrale ci vorrebbe per alimentarle queste frequenze. E comunque così, 77, dai 70 agli 80. Sì, lo ricordo, prima l'aveva detto questo comandante, però non ero sicuro, ma già è così. Beh, 70 periodi praticamente, ho capito. L'elettronica è un campo molto, ma molto vasto, non ci sono dubbi. C'è da diventare scimmie, capita, a studiarla tutta, per carità. Che poi si rinnova sempre, continuamente, per cui uno non smette mai di studiare. È una cosa impressionante quanto è difficile quel settore lì. È una cosa impressionante veramente. Riprendi, Marco. Naturalmente qua è un radioamatore che spiega, dice, titolo è comunicazioni radio da sottomarini e sommergibili. Sono due infarinature, però molto, diciamo che è top secret, molta roba, tutto il materiale, le informazioni sono top secret, quindi si sanno solo cose marginali, ecco. È una frequenza incredibilmente bassa, caspita, solo che dice che è lenta, dice che in un quarto d'ora riesce a trasmettere solo tre lettere di un messaggio, ma non ho capito il perché. Vabbè, forse per la sono cose al di là della mia conoscenza, dai. Evidentemente per la velocità di trasmissione, anche per il tipo di cave magari che usano, chi lo sa, tipo di antenne, sarà per quello. Perché tutte le frequenze hanno un ritardo di trasmissione. Tanto per darti un'idea, per dire, tu ascolti una trasmissione che va in onda in contemporanea, TV e radio, no? Ecco, alla radio arriva prima, alcuni secondi prima, sempre per una questione di velocità di trasmissione, da frequenza a frequenza. Eppure la trasmissione è sempre quella, Non, anche se sta andando in onda uguale, nello stesso tempo dell'altra, però c'è una differenza di tempi di trasmissione. Certo che lì in fonia non si può parlare, nemmeno lontanamente. Fonia, ma per carità, e come fai? E come fai a parlare in fonia in quelle frequenze lì? Non è possibile, assolutamente. Guarda, se riesci a collegare anche lo spazio, alcuni radioamatori sono riusciti a collegare anche le astronavi dallo spazio addirittura. Naturalmente ci vogliono stazioni un po' particolari, antenne soprattutto particolari. Le onde radio arrivano dappertutto, però devi essere attrezzato per quella determinata frequenza, con determinate apparecchiature, con determinate antenne giuste e valide proprio specifiche per quello. Anzi, ti dirò che lo spazio è più semplice perché è vuoto, e quindi l'onda radio viaggia, che è un piacere, ma lì, caspita, lavorano sotto il mare quelli. Vabbè, fate girare, dai, che mi piglio un budino. Ok, Marco. Vabbè, il discorso vuoto, nel vuoto o sottomarino non credo che sia così importante, perché le onde radio riescono a perforare il cemento armato, figurati che problemi ci sono. Il discorso è quello. Vabbè, sono cose... Tu immaginati chi ha fatto quegli studi, che è andata di cervelloni, di ingegneri, che hanno studiato quelle, quelle frequenze lì. Ah, claro, te le immagini. La buccia di giocano. No, mi ricordo questo comandante dell'americano, il comandante della nave appoggio a sommergibile da Gilmore, una nave enorme, ma era proprio un laureato in ingegneria elettronica, oltre ad aver fatto, vabbè, aver preso i gradi da, da non so come funzioni, se avesse fatto anche lui la scuola a Marinara, non so, però so che era laureato in ingegneria elettronica. Spiegava, veniva alle scuole, agli allievi sottufficiali a spiegare appunto, a insegnare lì alle scuole agli allievi. Bravissimo, parlava molto bene l'italiano, un bestione, 2 metri l'uomo, come quei film americani, o Marco, quelli fanno vedere i militari, gli americani, un bestione. E appunto mi aveva, siccome ero già appassionato, perché ero già appassionato, c'avevo già il baracchino io con aspetto militare, e quindi gli chiesi queste cose e lui mi disse che appunto trasmetteva, se il sole sommergibile trasmetteva una frequenza molto molto basse, dai 70 agli 80 Hz, mentre invece le navi appoggio avevano un sistema più che di, quasi sempre di telegrafia, capito? Andavano molto in telegrafia. Ok, sì, beh certo, perché la, la portante ha un'altra dimensione di trasmissione, oltre, perché la, la radio è un conto, in telegrafia è chiaro, c'è più potenza, c'è più trasmissione. Sono cose molto, ma molto, molto particolari, molto, molto, molto. Guarda Eddie che ne sa un bel di quelle cose lì. Avanti va lì, canta che è bella voce. Ma io devo sempre prendere un minestrone, cosa stai facendo Valeri? Oh, anche tu. Vabbè. No, poi gli avevo chiesto appunto Giulio, questo che hai detto tu, come mai trasmettevano appunto in molto col telegrafo. Nel periodo di guerra dice che era meglio trasmettere col telegrafo perché era, si intercettava meno dal nemico, no? Mentre invece nei periodi normali, come hai detto tu, la potenza era molto più elevata, quindi il segnale arrivava anche prima che il telegrafo, capito? No, bene, sabbia. Poi, adesso non mi ricordo più, ma aveva detto un sacco di cose, avevo fatto un sacco di domande su queste antenne che c'erano, su queste navi militari, queste antenne enormi, verticali, di 20 metri l'antenna, cosa serviva, cosa non serviva, un momento venuto. Però era una persona molto preparata, giovane pure era, perché l'ho fatto nel 79 e penso che fosse uno o due anni più grande di me, quindi forse aveva una ventina d'anni, era già laureato in ingegneria elettronica, senza dai bid era liscio. Beh certo, ma se pensiamo poco a poco, grazie al problema che ha messo all'umanità Marconi, e non solo Marconi, anche Tesla, Tesla soprattutto, prima di Marconi, per dire, tu immaginati con tutte queste cose che oggi esistono nella città. E prima io voglio sapere come facevano prima a comunicare le persone, parlo di centinaia, addirittura migliaia di anni fa. Oggi è semplice, perché oggi tu una cosa la fai sapere a tutto il mondo intero nel giro di qualche minuto, così, nemmeno. Certo che Marconi era un cervellone, e non solo Marconi, anche Tesla, anche Meucci, e tutti questi insomma, ecco, erano volta, un senso, tutti grandissimi cervelloni o qua, te le immagini che data di invenzione che hanno fatto? Con i tamburi, e allora, come gli indiani, col fumo, facevano fuoco e facevano vedere le vampate di fumo, e allora, beh, dai, diciamo, e allora, riprendi avanti, chi era amico? Ciao Elio. Ciao, io più, buonasera, ben ascoltato. Infatti, un primo segnale è il segnale di fumo, no? Che hanno inventato gli indiani. capito, per comunicare. Poi è arrivato tutto il resto. Bei tempi, bei tempi. No, io ho visto proprio alla fiera, quando sono andato alla fiera di Genova, c'era uno stand dedicato proprio a Guglielmo Marconi. Con cosa si iniziò proprio a trasmettere, i trasmettitori piccolissimi, autocostruiti, tutti a valvole, tutti a cose bellissime da vedere. Quindi quell'era, in quel periodo lì, è chiaro che era anche bello capire e sapere, ma poi siamo arrivati noi già pronti, abbiamo preso la radio, siamo messi a parlare, bello iniziare come hanno iniziato loro. Avanti Marcolino. Quando tu pensi solo al fatto che si può trasmettere senza corrente elettrica, senza nessunissima alimentazione via radio, hai detto tutto. Poi naturalmente, per poter avere delle potenze grandi, mi ci vogliono gli amplificatori, ovvio. Però la radio, in realtà, la radio, la vera radio, in pratica è la radio galera, quella senza nessunissima alimentazione, nemmeno batteria, nulla di tutto. Un pezzo di cristallo e si andendi, per dire ocla. Poi naturalmente, per farlo sentire a tutto il mondo, ci sono voluti tanti sviluppi della tecnica radiofonica, soprattutto amplificare eccetera. È così, ma però la vera invenzione è immaginarsi solamente che la radio funziona senza nessunissima alimentazione, te lo immagini? Se le cose erano quelle, non andava là. Ok signori, io però vi lascio momentaneamente, sono meno 20, vado a sistemarmi il cane, perché così poi ceno, c'è la partita, mi dedico un po' alle cose di casa, dai. Se ci siete a dopo, mi fa piacere, momentaneamente vi saluto, ciao Elio, ciao Marco, Giulio e Valerio e chiunque fosse sul 10, dai. Se ci siete a dopo, il cambio nuovamente per Marco, se no riprendi tu Elio e fai girare, c'è anche Valerio D'Alghero. A dopo signori. Ok, ciao Cla, a dopo allora, dai. Va bene così. Marco ci sei? Marco sta pranzando, non cenando, pranzando. Ciao Elio, avanti. No, io uso un altro sistema per qualsiasi apparato e mi viene molto, ma molto. Ciao Valerio intanto, salutoni, ci sentiamo domani eventualmente. Sì, stavo dicendo, no, io uso un altro sistema, è inutile stare lì a perdere la testa, Willio. Io compro uno sfinotto che vada bene alla radio e uno femmina che vada bene al microfono che devo piazzare. Senza smontare lo sfinotto del microfono, faccio una prolunghetta. In questo modo prendo lo sfinotto di quello della radio e ci salgo i fili 4, 5, 6, quelli che saranno, quelli 8 anche se trattandosi di HF per dire no, e li lascio spellati da una parte. Poi prendo l'altro sfinotto, quello che si inserisce nel microfono, anche lì saldo i fili, saldo, anche lì lo lascio spellato e lo provo a mano collegandoli così a giunzione. Una volta che ho trovato il collegamento giusto, un pezzo di carta, mi segno tutti i collegamenti e posso saldare direttamente lo sfinotto nella maniera esatta. Mi sono spiegato io? Beh, per l'up-down ce ne dovrebbero essere due, uno per salire e uno per scendere quei canali, per cui quello non è così difficile da trovare. Ma se tu saldi già lo sfinotto, per l'up-down, guarda, addirittura toccando insieme li trovi, e così quelli sai già che sono l'up-down, e quando fai il collegamento del microfono, anche se usi un microfono che non ha l'up-down, quelli lì li tieni in disparte, e il microfono però lo collegi ugualmente, o Elio, come ti ho detto, con gli sfinotti supplementari. Lo so, quello sì, ma è facile, perché una volta che tu ti hai preso i fili dell'up-down, quelli già te li sezioni, te li metti da parte, per dire, se non usi un microfono dove appunto ti permette di cambiare canale, basta che ti trovi subito la portante, ti devi trovare, e poi ti rimane solo la trasmissione, la ricezione. Premesso che magari il baracchino non ha bisogno del microfono per la ricezione, ed è ancora più semplice, devi solo invertire i fili, basta, è tanto facile, non stai lì a perdere la testa 2 ore a cercare, a saldare, a provare e a vedere se sta uscendo, e invece ti fai collegamenti così manuali, collegando i vari fili, poi ti prendi un pezzo di carta, una penna e ti segni tutti i contatti, pin per pin, e sei a posto, in pochi minuti, guarda, in 10 minuti completi il lavoro. Sì, tutto a posto Lidio. E ogni tanto incontro anche un certo Giuseppe che tu conosci e ci salutiamo, lì sempre nella zona via Pascoli, insomma, è lì in zona, no? E ogni tanto, ogni pochi giorni già ci incontriamo. Sì, ma non basta che Marco ti dia le indicazioni così, perché ti può dare le indicazioni dell'apparato, però il microfono è uguale a quello che usa Marco, è interrogativo, è quello il discorso, perché da microfono a microfono il collegamento può essere diverso. E non parliamo poi, qualcuno si basa anche sul fatto dei colori, no, assolutamente, i colori sono quasi sempre sbagliati, è quello il discorso, Ovidio. Brecchio? Ok, avanti il Brecchio. Buonasera, ciao Giulio, ciao Ilio, ciao Franco. Una interrogativa per Ilio, cos'è quello a 4 o a 5 poli era? guardando il guardando diciamo il, come si chiama, la presa a pannello, e sul lato sinistro in alto, cioè il primo in alto a sinistra, numero uno, mazza. Poi a destra sempre in alto, cavaliere in alto, ricordati, è il numero 4, che sarebbe il famoso put down. Poi andiamo a quello che vedi sotto, sotto vedi che è sotto l'1 per intenderci, che è a sinistra in basso, è il microfono audio. Poi a destra in basso c'è il numero 3, che è il PTT. Poi lo puoi anche provare, se fa una cosa così non ha, visto che sono solo 4, quindi l'unica cosa che ti trovi in difficoltà è rispetto a quello pull down, che adopera un sistema resistivo per la commutazione. Saluto a Gianfranco, ciao Gianfranco. Sì, beh certo, bisogna vedere poi quale tipo di microfono uso, con quale contatti Gianfranco, perché il discorso è quello. Ma io le stavo dicendo, non so se tu hai ascoltato, di utilizzare due sinucci supplementari, uno che va al baracchino, o meglio alla radio, e l'altro che fa da femmina al, o da maschio, o che fa al coso, al microfono, saldandoci dei fili sia nell'uno che nell'altro, poi se li inverti a mano i fili, lasciando le spelate, le punte, no? Se li inverti a mano e lo trova in 5 minuti, trova il collegamento giusto. Una volta che sei anche già trovato il collegamento, se li segna in un pezzo di carta, allora toglie e piazza lo stilo auto nei contatti, appunto, che ti fanno riferimento a questi collegamenti manuali. Capito? Ho già fatto, non so se avevi già ascoltato la prima. Sì, ciao Giulio, ancora buonasera. Ma sono solo 4, è più semplice, perché è abbastanza, si capisce al volo. L'unica difficoltà rispetto è sul piedino dello put down, che è, in teoria sarebbe opportuno rinunciarci, perché quando c'è questi fattori di resistenza così è una cosa un po' che lascia il tempo che trova. Quindi niente, la parte più interessante per me sarebbe l'interfaccia che puoi collegare dietro, ecco, tramite il seriale. Quindi credo che sia sempre la tua disposizione, se non ricordo male. Vedi un po', si può trovare tranquillamente, non dovrebbero altri problemi. Se non magari di adattamento di impedenza, ecco, quello magari sì. Allora, quell'apparecchio, come tutti gli apparecchi, anche l'AT555, che è lo stesso, perché in realtà c'ha 3.000 nomi quell'apparato, all'interno c'ha tre piedini, tipo quelli che si trovano nella sede audio, per intenderci, dei computer. Questi tre piedini non è altro che un ingresso seriale, quindi li colleghi al PC col suo programma, che è il tuo address, e programmi tutto quanto, capito, tutto l'apparato. Se voi, perché attualmente quei modelli credo che siano programmati a 60 canali, lo puoi portare a 40, lo puoi mettere i canali che vuoi, eccetera, eccetera. prendo e vi saluto, dai, che devo andare per la cena, per cui vi saluto, ci sentiamo magari domani se coincide. Ciao Elio, salutoni, grazie per la chiacchieratina. Ciao Gianfra, grazie anche a te per la chiacchieratina, alle prossime, a domani eventualmente se coincide. Ciao, ascolto fino a io, poi chiudo. Riprendi Gianfra. Perfetto, allora ciao Giulio, buona cena e a risentirci, passo Elio per il finale. sono schiacciato questa specie di mal di gola in giro e mi ha bruciato un'intera settimana. Proprio una cosa allucinante, da non credere. Mai dire mai, visto l'imprevisto sempre dietro l'angolo. E quindi sono rimasto praticamente fregato. Tutto lì. Infatti volevo dire, mannaggia. Non me lo ricordo più. Con l'apparecchio lì. Ma l'ha ricevuta la mia, perché mi dà un errore qua. Del mio, sono 60 canali per banda, l'ho dovuto mettere in modo che corrispondesse l'1 del display al canale 1 normale, e quindi vanno da 26 e fruscia a 30-105, poi gli ultimi 20 canali ritornano giù, sull'ultima banda, ritornano giù più sotto di quelli che c'erano all'inizio, insomma. A farlo a mano è un appento, 60 canali per banda, non so quante bande siano, è un po' seccante. Però una volta che il file è pronto, se gli interessa quando avrà o quando farà il cavetto, ma io il cavetto l'avevo preso, ma mica l'avevo pagato così, l'avevo pagato una cosa simbolica. Non mi ricordo nemmeno se l'ho pagato preso dalla Cina, sai, Anitone, quelle cose là. Non me lo ricordo, francamente. Sì, perché quel prezzo è veramente da ladri, è esagerato, però un cavetto che usi una volta poi non lo usi più, cappa. Sì, buonasera Marco. Sì, gli ho detto, infatti, non ti servo l'apparecchio, ce l'ho anch'io, poi l'ho... mi si è guardato un pezzo di LED e l'ho buttato via, perché non facevo niente con la stazione. Quindi il... sono tre figli, guarda, non una cretinata, tre figli seriali, le colleghi hanno presa seriale 9 pin, lo colleghi a un computer e va tranquillo, uno scherzo, 68 canali, o quanti ne registrano mai, quanti era 60, con gruppi da 5, credo. Hanno una trentina, quindi non so se vabbè, sono addormentato, comunque non ci fare caso, comunque è una fesseria, era programmato. Sì, poi le funzioni le puoi sempre richiamare da menu, tutte quelle che ti interessano. Sì, un bel giocattolino, comunque carino come baracchino, dai. Di notte è bello perché si illumina tutto il display, è carino. Poi con la MB più 5 giustamente esce molto meglio. aprendo anche il trimmer della modulazione, perché all'inizio non era un granché, la verità. Poi una volta aperto tutto il micro trimmer della M, perché è veramente piccolo, ma stavano uscendo gli occhi, esce molto meglio già col mic originale. Poi con la M5 non ne parliamo. Solo che ho notato che nonostante si tenga a zero il coso, come si chiama, l'autoascolto, con la MPV5 c'è sempre un leggero rientro nelle casse, non è un rientro del VF, però è proprio fatto così. Anche col mic normale tu soffi e nella tua parante senti appena appena il soffio, così appena appena, non so se è solo il mio esemplare, però. Quindi l'MPV5 se lo lasci vicino, come facevo io, tenevo a fischiare, bisognava allontanarlo di più o comunque abbassarlo di volume. Adesso è un bel apparecchietto, non ha dato problemi, lo uso poco, veramente poco, comunque, perché il 3009 è il preferito sempre. Poi questo in più è omologato, proprio c'ha 40 canali 4 watt, quindi di più non si può. Poi gli altri, il 9009 e il 7009 della CRT, praticamente sono la stessa solfa, stesse funzioni, potrebbe essere anche lo stesso apparecchio, solo con un aspetto diverso, però quelli erano già programmati che io ricordi, o comunque bastava premere un tasto, tenevo premuto, accendere e aveva i soliti canali, no? Che poi noi siamo sempre solo sul 10, quindi potremmo avere anche un solo canale e saremmo bene così. Sì, infatti, tanto non è che ci sono problemi. Niente, non riesco mai a vedere. Non sto pensando. Stiamo per guardare. Niente. Va bene, o per vado a 25 a 30, cioè non deve fare anche ascolto, va benino, va. Non si può usare anche quello in zona con latte, come questi baracchini, però oramai le zone con latte non esistono più, perché a voler essere ottimisti è un vantaggio, ecco. Tutto lì. Ciao Elio, il mio parte dai 26,3 mi pare, 26,315 poi a salire fino ai 30,105, ma chi ci vale, chi ci va, è proprio inutile, come va Elio? Sì, perché è più sopra quello. Quello che ho messo io ho fatto un punto in cola, mamma. Guarda, ce l'ho grande adesso, te lo rimando proprio quello del microfono tra l'altro, poi il cavetto a farlo una puntata proprio di quelle. Tanto vediamo un po' se c'è anche a vedere. Ma poi mi no, non detto che non ce l'ho perché te lo già. Che sonno, ma perché c'è tutto questo sonno? Non capisco, ma che è finito tardi, però ecco qua, te la sto andando, guardate così ci vedi bene, che questo è anche più grande, fatto, ma non costava così tanto, forse erano 10-15 euro massimo, proprio perché io sono un purista, non mi piace fare cose artigianali, lo volevo originale, ma forse l'avevo pigliato dalla Cina, sai, quei rivenditori comunque in Europa, 25 euro è troppo, dai. E non so se hai sentito, ho la programmazione, spero che non sia sul computer che si è incicciato, la programmazione per quell'apparato, già fatta, salvata, 60 canali per banda, mi pare vada da 26.315 a 30.105. Ripeto, spero di averla salvata anche sull'hard disk e non solo sul computer fisso che è andato in cielo. Arriva da 25.00 fino a 30 e qualche spiccio. Proprio dai 25 ai 30, cioè questa deve partire o un po' più dal basso e fermarsi prima, oppure partire più, un po' più in alto e fermarsi ai 30-105, cioè non si riesce a coprire, nonostante i 60 canali per banda, tutto dai 25 ai 30-105, bisogna scegliere se spostare un po' avanti il range o un po' più indietro, che le bande sono quelle, fossero di più le bande l'avrebbe fatto. Ma tanto, ma chi ci va lì, chi ci va? No, ma non puoi dire, no. A parte di chi ci va e chi non ci va, ma cioè per quello che ci riguarda siamo a sintonia continua praticamente da zero, questo qua, 45 kHz fino a praticamente 174 MHz, praticamente in sintonia continua, quindi cosa ne fai? No, infatti, no, io qualcuno l'avevo sentito lì, giusto a Pomponio, anni fa c'era andato, sui 28.8 mi pare, al di fuori della banda amatoriale mi pare si fermi a 29.7, 29.999, cioè, hai già capito, dai, 29.7, mi pare 29.8 era andato, avevo fatto una prova con un CB che era lontano, era pulitissimo lì, non voglio nemmeno sapere quante stazionarie avevano lì, perché... vabbè, però a parte quello non ho mai sentito nessuno. Ogni tanto sentivo quando c'era propagazione buona il ponte in FM a 29.6, 29, intorno a quella zona lì, dai. Un ponte francese, sì, in lingua inglese, credo di aver capito. Sì, allora guarda, siccome la gente va dove non sente niente, in maniera molto intelligente, perché la gente c'ha la coda e le orecchie lunghe, e fa in o anche qualche volta, non sa se poco a poco si è andata la briga di leggere ogni tanto, tipo la Gazzetta Ufficiale, la ripartizione delle frequenze nazionale e internazionale, fatto perché con la frequenza dopo alla fine gamma radioattori 29 e qualche spicciolo, dalla 29 in poi 29.7, 29.8, 29.9, 30 e così via, sono frequenze utilizzate dal Ministero delle Poste per il controllo satellitare, può sembrare strano ma è così nella definizione, o come Bitcoin, o come sistemi di rilevamento e trasmissione dati, eccetera eccetera, fatto sta che lo utilizzavo per quello, ma sta legge sulla Gazzetta Ufficiale, così non lo sbaglia e non ci deve per forza sentire il rumore, perché ci sono tanti tipi di modulazione che lui non le sente, ma vuole farglielo capire alla gente. Ehia. Sì, ma io in una ripartizione delle frequenze l'avevo trovato l'altro giorno, diceva dai 29.7 in poi assegnato al Ministero della Difesa, però non so se è aggiornato, se non è aggiornato. anche dopo i 30 mi pare sia tutto il Ministero di Difesa. Può essere Gianfra? Sì, dai 30 ai 70 praticamente tutto il Ministero della Difesa ha fatto alcune eccezioni per l'utilizzo di apparecchi di bassa potenza o tipo quelli che c'erano, che non usa praticamente nessuno, a 43 mega. Quasi tutto il Ministero della Difesa, soprattutto nella banda dei 30 mega, 31, 32, 33, da qualche parte ci sono anche dei ponti. Se tu guardi gli apparati anche su Plus, molti partono da 27 fino a 40 i spiccioli. Sono tutte abbastanza militari che usano loro. Io nel corso degli anni, da 84 a 3, da questa parte non avevo mai sentito nessuno là, anche facendo scansione in FM più che altro, sia con discone, sia con varie antenne, mai niente, almeno niente di udibile, niente fonia mi voglio dire, poi ci avranno magari sistemi particolari. Eia. Quindi Elio, comunque adesso cercherò il file, spero vivamente che sia dove spero io. Se lo trovo, anche senza cavetto, te lo puoi aprire col programma, dare un'occhiata e vedere come sono i canali. O se ti va bene, basta scriverla sull'apparato ed è fatto. Io invece mi sono dovuto mettere ogni canale, un canale alla volta mi sono dovuto mettere, scrivere. È stata una paranoia, dai. Una volta salvato il file è un bijou, dai. No, non era 48. No, sta succedendo, 41 volevo dire. 40-41 erano le chiese, quelli strani apparati che. Chissà chi gli ha dato l'autorizzazione, sta diventando un casino veramente, ma non so neanche se ce l'abbiano, se hanno preso altri fondi, qualcuno se l'ha messo in testa, le ha vendute eccetera eccetera. Poi per rispondere a Marco, ma è ovvio che non senti con le trasmissioni, se tu ti guardi gli apparati che usano, spesso hanno tra i schemati. In italiano si potrebbe chiamare salto di frequenza praticamente, il che significa che quando prendo la portante in pochi secondi questa portante salta da un canale all'altro di quella banda, poi torna indietro, poi se ne va un altro, in inglese quello che si chiama frequenza un ping, cioè salto di frequenza, e questo avviene in pochissimi secondi, si fa parecchi canali, quindi tu non senti niente perché il subciottivo che trasmettono lì per qualche decimo di secondo, ora senti un track. Ci vuole un apparecchio digitale per capire almeno che stanno trasmettendo, e vedresti tante lineette su un analizzatore di spettro che camminano. Poi per rilevare l'ordine in cui queste lineette sono è tutto un altro paio di maniche, perché ovviamente se non sai l'ordine in cui sono disposti i canali è inutile. Se poi a questo ci aggiungi anche normalmente con i nuovi apparati che sono totalmente digitali, anche una criptatura ad alto livello, allora proprio non senti niente, il canale è proprio bianco, però ci sono. Eia. Riprendi Elio, troppo difficile per me, dai. saranno radiomicrofoni, no, cioè i microfoni senza filo, no, che funzionano per frequenze varie. Adesso vi racconto un aneddoto, no, tanti anni fa, no, proprio anni 80, Gianni De Donatessore mi aveva detto, mi guarda, si sente il microfono del circolo, capivo, mi dice, sì, il circolo, qua a Piazzale Segni, ma quale circolo? Il circolo, quello Orfei, il circo, e praticamente lui sentiva, che abitava vicino, sentiva il radiomicrofono che poi andava all'amplificazione del, del presentatore del circo, dai, è tutto lì. Fatelo ricordare, fatelo, quasi che fosse pure VHF, cosa ne so, si parla degli anni 80, è passato tempo, io qualche radiomicrofono l'ho visto, insomma quelli senza fili, dai, non lo so, adesso non me lo ricordo, non me lo ricordo, è passato tempo, dai, non lo so, bisogna chiedere a chi li usa, chi li usa. Anche in chiesa certi preti usano quei microfoni senza filo, penso se uno si inserisce e comincia a bestemmiare, eh? E viene amplificato dall'altoparlante in chiesa, per carità. Io mi ricordo la volta che c'era, c'era stato di quelle comiche, un inglese, adesso non, non ricordo se era, che il prete proprio c'era, c'era uno di quei microfoni. Dimenticato acceso, ero entrato in confessionale a confessare, mi sono sentiti tutti questi peccati di questa vecchiezza. Ma lo ricordo, cioè ricordo il fatto ma non il film, lo ricordo. E cosa volevo dire? Mannaggia, mi sfugge, vai Elio. Ah, i PRC. Abbiamo avuto i PRC10, un gruppetto di tre persone, noi facevano mi pare 38-55 o giù di lì, o 38-50, no? All'epoca c'erano i cordless 46-49, ma penso anche non omologati, no? E c'era una vicina che parlava sempre con le amiche. Un giorno mi sintonizzo proprio sulla, sulla frequenza, mi pare, di ricezione di lei, quindi non la sua connetta, la frequenza proprio del... Vabbè, già hai capito. L'ho chiamata per nome, ho detto Laura, e lì, hai sentito quella voce? Chi è che ha parlato? Insomma, sono rimasto un po' così. E poi me le sono disfatto perché non me ne facevo niente. Basta il baracchino e basta. PRC10, AN, così si dice, AN PRC10. Sì, da 38 a circa 55 MHz. Mentre il 9 andava da 27 a 30, a 39. Ah, bello che questo si è sentito chiamare al telefono. praticamente stavo sovramodulando la centralina, dai. E lì ha sentito questa voce, e l'ha sentita però anche l'altra, che parlava con lei. Dice, ma chi è che ha parlato? Oh. Io, a me mi è sparito invece Marco, è sceso un segnale bassissimo. Ho provato, non abbiamo tagliato l'antenna. Adesso è passato il finale. Ai, ai. È così. No, sono 40-41 quelli lì. 40-41 che poi è una gamma un po'. La fanno passare forse, cosa potrebbero far passare come radiomicrofoni, ma se l'utilizzo è quello diventa un utilizzo praticamente broadcasting, e quelli dovrebbero avere ben altre autorizzazioni. Ecco. Vabbè che poi la chiesa è sempre favorita, però qua si tratta di mero commercio. Scusa Gianfra, sono scomparso perché sto tenendo il cavo a mano, perché faccio contatto, sto cavo è uscito male, dai, lo devo rifare, però con gli spinotti in bacchelite, non quelli in plastica. Fin dove mi avete sentito? Forse c'è qualcuno che chiama, fin quasi alla fine, però guarda, quelli in testo non sono affatto cattivi, cioè anzi in teoria dovrebbero essere migliori di quelli in batterizze, quindi sono leggende metropolitane, cioè, dipende dalla fattura di come è costruito il PL o il BNC o il TNC o quello che è, capito? No, no, quindi sono cose che ho lasciato il tempo che trovano queste cose, non hanno supporti tecnici, il testo veramente è ottimo. Ehi, Eugenio, ciao, ben entrato, in compagnia di Gianfranco e di Elio Piuma. Oh, eppure sì, un po' di bianco l'abbiamo lasciato, dai, dimmi tutto. Ehi, ciao Eugenio, scusa se non abbiamo lasciato bianco. No, stavo ripetendo appunto che mi ero messo sulla frequenza della centralina. E quella ha sentito la voce, ma non solo, l'ha sentita anche l'interlocutrice. E quindi, chi ha parlato? E poi, quello che stavo dicendo prima, che una volta ero al cellulare, in GSM, perché io tax non ne ho avuto, stavo parlando con una persona di sesso femminile, beh, ci siamo trovati in quattro a parlare, perché abbiamo sentito le voci di un altro ragazzo e di un'altra ragazza, e ci siamo trovati a parlare in quattro. Com'è possibile? Perché no, sì, evidentemente. Comunque l'altro ragazzo quasi non l'ho sentito, io ho sempre lo squash a S4, lui arrivava a S2, quindi non so da dove fosse, da che zona, però poco solo. Non so, io penso anche a qualcosa del tappeggio forse, però io... No, la stazione che stava chiamando, io non l'ho sentita perché c'era lo squelch, la S4 almeno, ma sicuramente neanche tu perché va riguardo a S2, in mezzo a quel tempo. So che è quello e vabbè, poi me ne ero disfatto, c'era un grosso manuale fotocopiato tecnico menate, poi per alimentarlo ci voleva quel kit che ti fornivano loro, non so, un kit che forniva l'alimentazione, che aveva anche una batteria al piombo, quelle ricaricabili tipo allarmi, no? E basta, no? Tutto lì, usato la discone, usato due volte, ma poi che ce frega, poi sai, sempre frequenze ambigue, quindi meglio non insistere, non svegliare il cane che dorme, dai. Sì, poi è un apparecchio talmente vecchio, hanno usato una lavora del Vietnam addirittura, ma c'era già il 25, che era un'altra cosa. Sono spalleggiabile, da un prezzo spalleggiabile, però proprio vecchietto, sono degli anni 50 e 65, 60 massimo. Ehi, non so se l'alimentazione fosse duale, mi pare di ricordare un negativo comune e poi due uscite diverse, una con un voltaggio e una con l'altro, può essere? Sì, dipende male dalla valvola, probabilmente, sono dato di anni, sicuramente nel 59 era difficile che ci fossero tanti. Sì, aveva valvole, erano delle piccole valvoline della Raytheon col simbolo radioattività sopra, forse dentro c'era, nel bulbo c'era un gas radioattivo, parte blandamente, insomma. Sono ancora vivo, quindi. Sì, vabbè, anche se fosse stata radiazione, non so se sono lo stesso. Allora, Silvio, tu li hai sicuramente conosciuti quegli apparati lì. Quanto avevi già? 40, 60 anni a quell'epoca, non a quella resina. Neanche spermatozoo quando è iniziata la guerra in Vietnam. Noi invece ascoltavamo la musica di Gianni Morandi che diceva in quella, come era, meglio sicuramente se la ricorda meglio, quel ragazzo e quello, lo strumento che faceva ta ta ta. Esattamente quando è iniziata, 68 o poco prima? Diciamo che ha avuto varie fasi, perché praticamente prima c'erano i francesi, anche quelli hanno preso batoste, però la guerra praticamente è iniziata dal 55, quindi prima che io ero nato, e si è conclusa nel 75, dopo che c'è stato quel casino. Mi ricordo ancora niente nero quello con la televisione, che c'erano dei ricotteri su un'ambasciata americana che scappavano e poi la deportai lì, ce li hanno buttati in mare, e quello era il 1975. Aspetta, non credevo, perché sai, tutti parlano del 68, intorno a quegli anni là. Vabbè, alla lunga, caspita, cioè sono usciti gli americani dalla guerra in Corea alla guerra in Vietnam direttamente. Ma è stata un'escalation, è iniziata con i francesi che hanno fatto tante perdite, perché in Indocina era totalmente tutta francese, poi si sono mischiati gli americani per mantenere quel regime lì. Tante altre cose, quindi saranno portate avanti fino agli anni 70 questa cosa, con dispendio di armi, di bombardamenti, di spionaggio, non è stata micidiale, cioè, c'è stata anche una guerra radio notevole, perché degli americani, poi parlavano all'artiglieria di americano e li fregavano, e gli autobombardavano, facevano in modo che ci fosse soffocamento, erano molto furbi, piccoletti ma furbi. Speriamo che non ci sia un'altra guerra in Corea, a me, per colpa di questo scemo del nordcoreano. Ma vogliono denuclearizzarlo. Stanno trovando la scusa che adesso avrebbe armi biologiche, secondo loro. Per Saddam Hussein hanno inventato che era armi chimiche e poi non c'erano. Adesso inventeranno che queste armi biologiche avranno la scusa per fare, so che quello poche ma ne armi nucleari, non si sa mai dove le lancia. No, io invece mi ricordo la guerra del Golfo, la prima, ce ne sono stati due, la prima guerra del Golfo, gli anni 90, in cui su Safari si vedevano passare i B-52 provenienti dalle basi spagnole che andavano in Iraq a bombardare il territorio iracheno praticamente. E quella è la prima guerra del Golfo, ma dovevi vedere cosa c'era in cielo, le formazioni, si vedevano scie di una cinquantina di aerei enormi, il B-52 non è tanto piccolino, c'erano carichi zetti di esplosivo. Ho tentato qualche volta di ascoltarli, però ovviamente parlavano in inglese e poi erano su frequenze un po' strane, aeronautiche, militari, 200 e passa. Caspita, io non me l'ero accorto, me la sarei fatta addosso. Ah, non stanno a 200 e fuscia, no? 250, no? 230, no? Sì, in banda aeronautica militare, 220, 200, posso dire 200, no, 200, dunque 220, 240, ma e giù di lì, insomma, la ricordo bene, perché poi più su è sempre militare, però è satellitare militare, che arriva fino a 260, 60 spiccioli, 270 praticamente. Ne sono qualcosa i pirati brasiliani, sui 250 spiccioli, non mi ricordo adesso. Li avevo sentiti anche dallo scoglio lungo, lo sai, con l'antenna VU, avevo provato a mettere la frequenza, sentivo uno ma arrivavano. E parlavano in portoghese, ovviamente, perché brasiliani in portoghese. Sì, esattamente, il canale loro è 255, 55, una cosa del genere. E li senti perché quella classe di satelliti si chiama UFO, ultimi sopravvissuti in una serie analogica, sono satelliti che lavorano in porte abbastanza basse, quindi raggiungibili tranquillamente anche con apparati, con antenne portatili, non hanno bisogno di grandi cose. Poi con la frequenza si presta moltissimo a quell'utilizzo, tant'è vero che anche noi stessi sono di lì, anche se sono, mi auguro un modo più moderno, la classe fissa, per intenderci 1, 2, 3. Ciao Elio, buona serata, buona cena, buon tutto, alle prossime. Vai Gianfranco. Sì Elio, ho avuto un attacco di rincoglio senile e mi è sfuggito il passaggio, però l'ultimo non stavo capendo, cioè ti devo mandare che cosa dell'apparato, dici qua, non me la metto lì. Eia, sì, spero che sia dove credo io, ogni tanto salvavo anche sull'hard disk, perché il file lo mettevo sia nella cartella del programma sia sui documenti, sulla cartella documenti, quindi dovrei averla salvata. Ok, se la trovo te lo passo, dai, in qualche modo te lo passerò, te lo mando via posta, te lo mando. Roba piccola da pochissimi kilobyte, proprio una cosa. Bene, bene, vai Gianfra, anche io chiudo adesso, dai. Quasi l'ora del film, oggi c'è un bel film, sia proprio per Halloween è adatto, la vera storia di Jack lo Squartatore. Non mi sembra l'hanno già dato. Oh, lo danno sul 27 mi pare, stasera alle 9, 9 e un quarto, una cosa del genere. E poi c'era tutto l'intrigo con la regina, insomma. Va bene, con quell'attore Johnny Depp, abbastanza bravo, insomma. Mi piacciono i suoi film, Pirati dei Caraibi, tutte quelle cose là, roba divertente, là. Beh, questo è un po' meno divertente, più crudo come film, più. Bene, bene. Va bene, Gianfra, quasi quasi decolliamo, dai. Mi accendo la TV, mi guardo un film e poi a domani. Ok? Ok, io prego, mi guardo qualcosa, sono addormento, tanto domani è anche a festa, tanto meglio. Si può svegliare anche un pochino più tardi, quindi io posso svegliarmi, come io la faccio alle 6, ma qualcosa la sveglio alle 6, così sono contento. Ok, ciao a tutti, buonanotte a tutti gli ascoltatori, ciao Marco, ciao io. Ehi, caspita le sì, io anziché una sera a mezzogiorno mi alzerò a luna. Beato per te. Beh no, beato no, poi diventa una cosa così, insomma, ti accorgi di non vivere una vita sono organizzata così. Vabbè. Purtroppo non c'è via d'uscita. Per ora. Ciao Gianfranco, buonanotte. Fatti sentire più spesso. Ci provo, sto un po' permettendo. Ciao Marco. Alle prossime. No, volevo raccontarti un episodio, ma con Claudio stavamo parlando di roba digitale, no? E io gli ho detto, guarda, chiedi a Gianfranco quando lo senti cosa vuol dire TDMA, TDMA, Tango Delta Mike Alpha, no? Aspetta, aspetta che guardo sul portatile se c'è un'impostazione, allora, wide narrow, subtoni, DCF, niente, allora, stava cercando la TDMA nelle impostazioni del portatile. quella non è altro che l'abbreviazione di un'espressione americana, detta in italiano in maniera più stringata, vuol dire sistema di modulazione a divisione di tempo. Esatto, e lui credeva che fosse un'altra cosa, qualche impostazione del portatile, c'era anche Pomponio alla notte, so. Poi alla fine si sentiva i Claudio era cotto dal sonno, erano le 11:15, non stava capendo più niente. praticamente come sono io adesso, con sonno che sembra un quarto, perché vabbè. Ma ne vado prima di cadere sul microfono, se no poi su questo rimane la portante attaccata, mi sentite anche bussare, magari, va bene, non credo di bussare, però. Ma magari sogni, dici cose compromettenti, vabbè già fa, buonanotte dai, buon sonno, buon tutto, dai, sentiamo, ciao ciao. E poi come diceva qualcuno, mi toccherebbe uccidere tutti quelli che hanno ascoltato. Eia, ti toccherebbe eliminare i testimoni. Vabbè, ci sentiamo, ciao ciao. Eia, ciao ciao, ciao a tutti quelli d'ascolto, ciao.